A Tempo di Sport di Giovanni Capuano. Buon pomeriggio amici di A Tempo di Sport, 800240024 per le vostre telefonate, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Poi potete scriverci anche su Twitter, @ tutti convocati, o su Facebook, la nostra pagina A Tempo di Sport. Manca un quarto d'ora a più o meno ai finali delle partite. Il Milan è sotto 2-1 a Udine, Inter e Napoli non riescono a passare contro Siena e Catania, ma in Italia si discute della brutta figura della cancellazione del rinvio di Cagliari e Roma, decisa questa notte dal prefetto di Cagliari intorno all'1:30, perché per il prefetto di Cagliari era insopportabile la provocazione del presidente del Cagliari Cellino, che ieri in serata aveva invitato i tifosi rosso-blu a recarsi comunque allo stadio malgrado la decisione di disputare la partita a porte chiuse. Saluto e ringrazio Maurizio Beretta, presidente della Lega Calcio. Buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori. Abbiamo parlato di figuraccia, ci siamo andati lontani? Certo, è un peccato, diciamo, è qualcosa che dispiace. Certamente il comunicato, diciamo, di ieri sera Allora, io chiedo un momento al presidente, proviamo a richiamarla perché c'è qualche problema di collegamento. Allora chiedo in regia di provare a riformulare il numero. Rapidamente vi do gli aggiornamenti. Ripeto, manca poco più di un quarto d'ora alla fine delle partite. Allora siamo sullo 0-0 a Bergamo tra Atalanta e Palermo, 1-1 tra Bologna e Pescara. Gilardino al 9° del primo tempo, Quintero il pareggio al 40° del primo tempo, Bologna che ha sbagliato con Diamanti un calcio di rigore nella ripresa. E poi siamo sullo 0-0 tra Catania e Napoli, 0-0 a San Siro fra Inter e Siena malgrado gli assalti dei nerazzurri, e l'Udinese conduce 2-1 sul Milan. Le reti nel primo tempo di Raneghi e per l'Udinese nella ripresa il pareggio di El Shaarawy e il 2-1 di Di Natale su calcio di rigore con Milan in 10 per l'espulsione di Zapata. Abbiamo recuperato la linea con il presidente Beretta. Dicevo, andiamo lontani quando dicono in tanti figuraccia quella di questa notte? Ma insomma, diciamo, certo, il comunicato di ieri sera della società appare incomprensibile, è certamente non fa bene all'immagine del calcio. Peraltro, ripeto, dispiace perché viene dopo una settimana di lavoro molto molto collaborativo tra la Lega, l'Osservatorio per la sicurezza negli stadi, il prefetto di Cagliari e la stessa società, per trovare una soluzione che contemperasse, diciamo, le esigenze, che sono sempre assolutamente per noi un punto di riferimento fondamentale, della sicurezza, e l'esigenza di non far spostare la squadra al campo di Trieste. Era stata, ripeto, trovata una soluzione grazie a questo, ripeto, impegno che ha coinvolto la Lega Calcio, l'Osservatorio e il prefetto della società per quasi tutta la settimana, e quindi, diciamo, siamo stati molto sorpresi. Siete stati sorpresi da quello che è successo. Ovviamente la Lega Calcio non ha nessun potere decisionale su quelle che saranno le decisioni del giudice sportivo, e quindi le risparmiamo la domanda sul ricorso della Roma, perché non avrebbe nessun senso. Quello che vogliamo capire, e poi la ringraziamo e la salutiamo, domenica c'è Cagliari-Pescara, siamo davanti a una settimana in cui si discuterà molto, esiste anche l'ipotesi che a questo punto il Cagliari possa essere in qualche modo forzato ad andare a giocare a Trieste. Guardi, io ripeto, devo dire che ho riscontrato, e di questo lo ringrazio molto, da parte del prefetto e delle autorità di Cagliari un grande impegno per cercare di risolvere problemi che sono oggettivamente complessi, e io non escluderei che si possa, come dire, fare un lavoro per come quello che, diciamo, comunque è stato impostato. Vediamo a che cosa si può arrivare. Certo, serve, come dire, grande collaborazione, grande impegno reciproco di tutti di tutte le parti in gioco per arrivare, ripeto, ad una decisione, magari anche parzialmente, però debba tenere conto innanzitutto della sicurezza di tutti, a cominciare da quella dei tifosi e degli spettatori, e anche delle aspettative dei tifosi cagliaritani. E poi sullo sfondo resta la partita della legge per i nuovi stadi. Lei ne ha parlato anche ieri, quando semplicemente si riteneva che questa partita sarebbe stata giocata a porte chiuse, e già di per sé sarebbe un dato inaccettabile per un campionato importante come quello italiano. A maggior ragione dopo quello che è accaduto questa notte, c'è l'urgenza che il Parlamento licenzi definitivamente quello che al momento è stato licenziato soltanto dalla Camera. Noi auspichiamo che il Senato, che ha in questi giorni, come dire, la legge alla propria attenzione, possa varare al più presto una norma che consenta davvero, come dire, in una logica di grande trasparenza, di accelerare le procedure, di consentire alle società di calcio di costruire prima e poi di gestire con equilibrio economico degli impianti che possono essere, come dire, vivi 7 giorni su 7, se gestiti dalle società, possono avere, diciamo, contenuti di sicurezza e di diciamo comfort complessivo enormemente più alti di quelli di moltissimi degli impianti che oggi abbiamo a disposizione e che, ricordo, non sono di proprietà e non sono gestiti dalle società di calcio. E in questo modo, diciamo, con una nuova legge, con nuovi impianti, potremmo colmare il, diciamo, il gap che ormai ci divide dal calcio inglese, dal calcio tedesco, dal calcio spagnolo, dove ormai gli stadi di proprietà delle società di calcio sono una realtà da diversi anni. Immagino che lei abbia letto questa mattina con un po' di invidia che a Barcellona ieri hanno deciso di fare un referendum per stabilire se ristrutturare per 300 milioni il Camp Nou o rifarlo nuovo entro il 2020 al doppio della cifra, e possono anche permetterselo perché hanno chiuso con un attivo di quasi 50 milioni di euro l'ultimo bilancio. Sì, adesso io penso è inutile guardare le situazioni delle singole società. Ci sono società in Italia che hanno dimostrato, che sono in grado di dimostrare, magari anche di farcela, diciamo, da sole. Il problema però è che noi dobbiamo assicurare la stessa possibilità a società piccole, medie e grandi, e quindi per questo serve un quadro di riferimento generale. Grazie Presidente. Grazie a voi, grazie agli ascoltatori. Grazie al Presidente Maurizio Beretta. Quindi questa è la posizione ufficiale della Lega Calcio dopo la figuraccia di questa notte e di questo pomeriggio, perché a Cagliari non si sta giocando la cancellazione di Cagliari-Roma con il comunicato durissimo del prefetto di Roma. Intanto da segnalare che a San Siro il Siena è passato in vantaggio poco prima della mezz'ora con Vergassola, quindi Inter 0 Siena 1. Ricordiamo ancora che il Napoli è bloccato sullo 0-0 a Catania, anche se sta giocando in 11 contro 10 dal secondo minuto per l'espulsione di Alvarez. Il Milan è sotto 2-1 a Udine e sta giocando in 10 contro 11 per l'espulsione di Zapata. 1-1 a Bologna tra Bologna e Pescara, 0-0 a Bergamo tra Atalanta e Palermo. Sulla questione stadi ci state scrivendo in molti, al 349-238-6666 ci scrive ad esempio Roberto: qual è la meraviglia quando di mezzo c'è un presidente come Cellino? Un concetto simile che viene espresso anche dai vostri messaggi sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Gianni scrive: forse bisognerebbe fare qualche investimento anche sul livello di qualità dei nostri dirigenti. E poi abbiamo postato una delle foto che sono state twittate in queste ore anche da alcuni colleghi presenti a Cagliari, allo stadio di Isa Arenas, chiedendovi se questo è uno stadio. Beh, molti di voi hanno scritto: guardando quelle immagini, quello può essere uno stadio buono al massimo per la terza categoria. Vi dicevo, oggi si è giocato anche Sampdoria-Torino, è terminata 1-1, due calci di rigore, uno per parte, ha segnato prima Rolando Bianchi per il Torino e poi il pareggio di Pozzi per la Sampdoria. E allora, visto che per la Samp si è trattata della prima partita senza vittoria, andiamo a sentire come l'ha commentata nel dopopartita il tecnico Ferrara. Io però non sono, insomma, dispiaciuto di questo pareggio, anzi sono assolutamente soddisfatto, per come i ragazzi hanno interpretato la gara, per il ritmo che hanno messo e perché praticamente noi non abbiamo quasi mai concesso nulla al Torino. Nel primo tempo abbiamo avuto 4 palle, nel secondo tempo, nel finale, in realtà abbiamo avuto delle altre occasioni con Eder per un paio di volte, e quindi credo che il risultato più giusto fosse per quello che ha creato la Sampdoria, però accettiamo comunque il pareggio perché abbiamo incontrato e sfidato una squadra forte che gioca bene, una squadra organizzata, una squadra che, insomma, che Ventura fa giocare molto bene. Intanto è sempre più profondo il baratro in cui sta cadendo il Milan, che è rimasto in 9 uomini. Espulso Kevin Prince Boateng, ci sono state grandi proteste da parte dei giocatori del Milan. Boateng, che per cercare di recuperare il pallone ha spinto un giocatore dell'Udinese, per lui cartellino rosso dell'arbitro Celi. Dunque Milan 9 contro 11 e sotto per 2-1, ma ricordiamo è sotto anche l'Inter a San Siro, rete in contropiede di Vergassola al 28esimo della ripresa. Saluto Carlo Vanzini, buon pomeriggio Carlo. Ciao, buon pomeriggio. Non so se ti stanno appassionando le partite di questo pomeriggio dopo un Gran Premio che a me, devo dirti la verità, ha un po' annoiato. Tra l'altro Gran Premio che è finito per lo scadere del limite delle 2 ore, perché abbiamo visto girare più che altro la safety car a un certo punto. Ma per quanto riguarda il calcio, visto la mia passione nerazzurra, direi di stendere un velo pietoso. Male male, eh? sì, no, penso sia una delle peggiori Inter che abbia mai visto, ma guarda, ti faccio, no, io non c'entro niente col calcio, però faccio questa considerazione: una volta arrivavano sudamericani, ne arrivava uno all'anno e ne saltava fuori uno ogni 10 anni di forte, di quelli giovani ovviamente parlo, tipo Zanetti quando è arrivato poi si è confermato quello che era. Adesso metterne 4 di colpo così, non so, poi dopo non faccio io le scelte, mi sembra che sia stata scelta lì della linea giovani e va bene, andiamo avanti così, ma penso che non si debba pretendere poi niente dagli allenatori. Comunque sì, poi domani si parlerà ancora probabilmente, o anche fra mezz'ora, del tabù San Siro, quando in realtà sarebbe forse da fare qualche ragionamento sulla qualità di questa squadra. Ad esempio oggi ha riposato per scelta tecnica Zanetti e non capitava dal settembre del 2008, certo che passare da Maicon, Kivu e Zanetti sugli esterni a Nagatomo e Alvaro Pereira come questo pomeriggio dà un certo senso di vertigine, un po' come quella che stanno provando i tifosi del Milan che sono passati da Nesta e Thiago Silva ai vari Acerbi, Bonera, Mexes, Yepes e via dicendo. Sì, ecco, hai dato la lettura, infatti quando leggo poi, che ne so, anche Allegri che ha messo in discussione, gli hai venduto mezza squadra, poi è colpa sua se si ritrova con i giocatori che ha, senza nulla togliere i giocatori che sono in campo adesso ovviamente. Comunque, torniamo al mio seminato. Torniamo al Gran Premio. Che è meglio. No, hai detto bene, la gara è un po' troppo lunga, il Singapore si sa, non è la prima volta che finisce con il tempo e non con il numero dei giri, cioè il limite delle 2 ore, lo ricordiamo, in Formula 1, e i piloti hanno tutti chiesto un accorciamento della corsa, probabilmente ci penseranno per la prossima stagione per dare un limite. Credo che questa gara debba essere accorciata di circa mezz'ora, molto bella da un punto di vista scenografico, un po' difficile per lo spettacolo, per vedere i sorpassi, anche se nei sorpassi di azione se n'è vista. Direi che è stata una gara molto molto importante per il campionato, visto quello che è successo a Lewis Hamilton, visto che Alonso riesce sempre comunque a fare quello che ha detto che doveva essere il suo obiettivo, ossia essere una formichina, portare a casa sempre punti. Sono punti pesanti oggi quello che fa paura inizia a essere Sebastian Vettel, però sembra esserci un po' la maledizione del secondo in classifica: chi si mette all'inseguimento di Alonso in campionato, poi la gara dopo, due gare dopo incappa in qualche problema. Carlo, allora io ti chiedo un minuto di pazienza, abbiamo il traffico, poi torniamo e vediamo però questa classifica, perché è vero che Alonso aveva detto alla vigilia: noi ci possiamo permettere ancora 1 o 2 passi falsi, però è anche vero che il vantaggio piano piano sta almeno in questa occasione diminuendo. Traffico. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure @ tutti convocati per i vostri tweet. Potete scriverci anche su Facebook, la nostra pagina è A Tempo di Sport. Il Catania ha appena preso palo e quindi rischia addirittura di vincerla questa partita contro il Napoli, che pure gioca 11 contro 10 dal secondo minuto. Vince 1-0 l'Atalanta, il gol di Raimondi al 43esimo del secondo tempo. Ci sono assalti furibondi intanto dell'Inter alla porta del Siena. Carlo Vanzini, collega di Sky Sport, che segue invece Formula 1 e motori. Allora, la classifica del mondiale: Alonso 194 punti, il secondo Vettel 165, staccato di 29 lunghezze, e poi ci sono Raikkonen meno 45, Hamilton meno 52, Webber meno 61 e Button a meno 75. Possiamo a 6 gare dalla fine cominciare a circoscrivere il lotto di chi si gioca questo mondiale? Ma io inizierei a pensare a difendersi adesso, la Ferrari deve difendersi soprattutto su Sebastian Vettel, però non escluderei dalla lotta a Lewis Hamilton, perché la McLaren ha dimostrato una crescita esponenziale nell'ultimo periodo di stagione. Evidentemente in questa crescita, nell'aver spinto così forte nello sviluppo, è stata tralasciata un po' l'affidabilità, perché già ha avuto un problema con Button a Monza quando poteva portare a casa una doppietta, ha avuto questo problema con Lewis Hamilton a Singapore. Quindi McLaren ha qualcosa in più rispetto agli altri per questo finale di stagione. Certo, Hamilton adesso è molto lontano, ha un paio di gran premi di ritardo, però abbiamo visto cosa può succedere nel corso della stagione, quello che è successo a Spa anche a Fernando Alonso. In un attimo, non dimentichiamo che sono 25 punti a vittoria, quindi io Hamilton lo terrei in gioco. Raikkonen è davanti a Hamilton, però la Lotus sembra in questo momento quella che ha meno chance di trovare lo sviluppo da un punto di vista economico. Però è anche vero che questa Formula 1 è molto molto strana. La Ferrari oggi sembrava non andare, poi di colpo va forte, poi non doveva arrivare in fondo con queste gomme, invece non solo, Alonso verso la fine riesce a fare i suoi giri migliori. Quindi credo che anche uno sviluppo studiato bene possa riportare la Lotus in lotta, però Ferrari deve fare quello che ha fatto fino adesso. Adesso c'è il secondo Vettel, marcatura su Sebastian Vettel. Sì, c'è anche da dire che certamente Alonso non è sfortunato, perché oggi probabilmente non avrebbe avuto possibilità di sopravanzare Lewis Hamilton. Anche Maldonado stava tenendo comunque un buon passo ed è stato costretto al ritiro. Era già capitato un paio di settimane fa che Alonso vedesse uno a uno cadere quasi tutti i diretti avversari, o almeno quelli che lo precedevano, guadagnando così dei punti anche in domeniche difficili. Diceva Ferrari: meglio un pilota scarso ma fortunato piuttosto che uno bravo e sfortunato, e Alonso è pure bravo. Beh, questo è indubbio. Diciamo che la sua sfortuna l'ha avuto a Spa, quando è stato centrato in pieno da Grosjean, però sì, i campionati si costruiscono anche con la fortuna, o anche con è vero quello che dici, però Ferrari diceva anche che la fortuna e la sfortuna non esistono, sono sempre conseguenza dell'azione dell'uomo. Probabilmente il ritiro della McLaren è conseguenza dell'azione dell'uomo, che ha spinto troppo nello sviluppo, portando l'affidabilità della McLaren a essere scarsa. Però è vero che poi comunque alla fine un po' di fortuna per portare a casa il titolo serve. Come intanto Abbiati sta cercando di tenere in partita il Milan, un miracolo su coda. È finito il Napoli 0-0 a Catania, e pensate che il Napoli ha giocato praticamente 90 minuti in superiorità numerica. Prima di lasciarti, ci chiedono da casa se è vero che Hamilton ha rotto il cambio perché fa un po' fatica a trattare la vettura, è un po' troppo ruvido. Ma guarda, quello che dicono i piloti in questo momento è che ormai è diventato impossibile che il pilota possa rompere qualcosa. Se si deve rompere, si rompe, non c'entra più lo stile. Una volta uno era molto più brusco, adesso è tutto un controllo che non dipende dallo stile di guida del pilota. Poi è chiaro, ci sono delle regolazioni che vengono fatte durante la guida, di controllo delle temperature, insomma è più un pilota calcolatore che non quello che effettivamente poi con la forza brutta magari staccava la manetta del cambio una volta. Adesso se qualcosa si deve rompere, si rompe. Quindi lo possiamo assolvere. Grazie a Carlo Vanzini. Grazie a voi, ciao. Grazie a Carlo Vanzini, collega di Sky Sport, che ci ha aiutato a raccontare questo Gran Premio di Formula 1 a Singapore, vinto da Vettel davanti a Button con Alonso terzo sul podio. L'altro ferrarista Massa ha chiuso in ottava posizione. Siamo davvero alle ultime battute, un po' su tutti i campi. In realtà a Catania la partita è già finita 0-0 tra Catania e Napoli, è sotto il Milan 2-1 a Udine, e quindi da questa sera si apre ufficialmente in maniera ancora più profonda la crisi della squadra rossonera. Sarebbe la terza sconfitta nelle prime quattro giornate, finita anche a Bergamo, Atalanta 1 Palermo 0. Siamo in tempo di recupero, se non sbaglio a San Siro, dove l'Inter è sotto per 1-0, e allora Dario, raccontiamo questi ultimi assalti dell'Inter. Sì, buon pomeriggio da San Siro, 3 minuti dei 4 di recupero alla fine della gara, 1-0 per il Siena, che ora va a battere un fallo laterale con Angelo dalla tre quarti difensiva. Un Siena che, come hai ricordato, Giovanni, è passato in vantaggio al 28esimo col più classico dei contropiedi orchestrato da Rosina, e ora ci riprova con il lancio in profondità di Calais. Seguiamo questa azione per Vergasola, che cerca spazio sulla destra. Juan Jesus Cross, il cross, il gol! Il cross di Vergasola, il buco al centro della difesa interista, Gianluca Bagnani sul secondo palo, Siena 2 Inter 0, e il gol che di fatto chiude questa sfida, almeno di miracoli. Ed ora i fischi di San Siro, la gioia della panchina del Siena con Sergio Corbi impegnato a richiamare tutti i suoi giocatori in panca. Mancano solamente, ma ancora da giocare, 2 minuti, è arrivato questo 2-0, dicevamo più classico dei contropiedi, come in occasione del primo gol dalla destra di Vergasola e Bagnani. Allora il 2-0, Dario Ricci, il 2-0 del Siena con l'ennesimo contropiede, tra l'altro, di Angelo a sinistra. Angelo che ha messo per tutta la partita in difficoltà la catena di sinistra dell'Inter, e anche su questo Stramaccioni dovrà interrogarsi sulla qualità dei suoi esterni. Quindi Inter sotto per 2-0, è davvero una domenica da cancellare fino a questo momento per le due milanesi. Allora, un istante prima di tornare ancora a San Siro per sentire la reazione dei tifosi dell'Inter a questo finale di partita, Inter che non riesce a infrangere il tabù casalingo. Questa è la terza sconfitta in 5 partite a San Siro dall'inizio della stagione, preliminari di Europa League compresi, ma certamente dopo quella nel turno precedente in casa contro la Roma è quella che fa più male, perché il Siena era arrivato da fanalino di coda allo stadio milanese. Ancora San Siro, Dario Ricci, per sentire il pubblico come sta reagendo. Beh, poco più di un minuto e mezzo alla fine, il pubblico nerazzurro ha prima reagito con i fischi al del Siena, e ora sta già lasciando le tribune per evitare il traffico dell'uscita. Rimane la Nord, che comunque ha sostanzialmente incitato i nerazzurri. Non si può dire che l'Inter non ci abbia provato, Giovanni, in questa partita. Pegolo gran protagonista, soprattutto nel primo tempo, però c'è evidentemente anche, Dario, un problema di qualità. Ti saluto, tanto ci risentiamo dopo la pausa per il GR. Noi ci fermiamo subito dopo ancora per la Moviola e per raccontarvi tutto di questa giornata che rischia già di essere decisiva sui campi della Serie A. Intanto io mi sono dimenticato di ringraziare Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi alla parte tecnica, però la cronaca incalza. 800240024 per il vostro numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi, o potete scriverci, e lo state facendo già in tanti, su Twitter @ tutti convocati o sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Philippe Gilbert, nuovo campione del mondo, il grande favorito della vigilia, non ha tradito a Falcon. Ne parleremo a partire dalle 18.30 con due ospiti d'eccezione, uno è Ivan Basso. Io saluto Graziano Cesari, buon pomeriggio Graziano. Buon pomeriggio a tutti. Allora, è stata una domenica con parecchi episodi anche di Moviola, adesso piano piano li racconteremo. Sentiamo però Stramaccioni a Sky Sport. Il discorso di San Siro è sicuramente la sconfitta brutta, perché probabilmente nella gara in cui, nelle sciagurate casalinghe, avevamo fatto meglio e abbiamo fatto meglio, però adesso si vede, secondo me, adesso si vede, io per primo che sono il capitano della barca, adesso si vede come non dobbiamo perdere fiducia in quello che stiamo facendo, perché secondo me l'Inter aveva fatto secondo me un ottimo primo tempo, aveva costruito tantissimo, c'era mancato solo il gol, bisogna fare i complimenti al loro portiere. E adesso una sconfitta così non deve assolutamente intaccare quello che è il nostro lavoro, lavoro di una squadra nuova, lavoro di una squadra che ha cambiato tanto e che sta sicuramente cercando una continuità che per ora non è arrivata. Allo sguardo un po' depresso, Graziano, l'hai sentito, Stramaccioni? Sì, mi sembrava anche molto avvilito, molto deluso dalle parole che uscivano con fatica dalla sua bocca in questa conferenza stampa. Ha voluto sottolineare come il portiere del Siena abbia fatto grandi parate, ma non ha certamente sottolineato l'ingenuità difensiva dell'Inter che sono portati due gol. Sì, Inter inguardabile dietro, soprattutto a sinistra. Mi pare di poter dire che a San Siro non sia successo nulla di particolare dal punto di vista della direzione di gara del signor Massa. C'è stata forse solo una protesta di Milito sul finire del primo tempo per una presunta trattenuta ai suoi danni da parte di Paci, come l'hai vista? No, assolutamente no, devo dirti che non mi sembra una trattenuta meritevole del calcio di rigore, un contatto normale di gioco e bene ha fatto il direttore di gara a far proseguire. Sì, si è un po' lasciato cadere Milito, sì, in quell'occasione. Sottolineerei per esempio un gesto di fair play, uno che si autoaccusa, Calaiò quando ha cercato di prendere il pallone, di colpire il pallone con la mano, si è autoaccusato, ma questo non gli ha evitato di prendersi il cartellino giallo. Quindi bello il gesto di fair play successivo di Calaiò, ma tentare o colpire il pallone per segnare una rete con la mano non si può, quindi giustissima la votazione. E quindi giusto il cartellino giallo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri sms. A proposito di bei gesti, c'è anche quello di Gastaldello in Sampdoria Torino, ha di fatto regalato al Torino un calcio d'angolo. I direttori di gara non si erano accorti, avevano assegnato la rimessa dal fondo alla formazione doriana. Gastaldello è andato a denunciare il suo ultimo tocco. Udinese-Milan, il Milan ha chiuso in 9, espulsi Zapata e Boateng. Aiutaci a fare un po' luce soprattutto sull'episodio che poi ha deciso la partita, che è quello del calcio di rigore al 23esimo del secondo tempo, fallo di Zapata su Pinzi, e qui ci sono pochi dubbi. Hanno protestato però sia i milanisti che i giocatori dell'Udinese. Sì, hanno protestato sia i milanisti perché credevano che Zapata non avesse commesso fallo sul giocatore Zapata, non avesse cominciato come faccio fallo sul giocatore dell'Udinese, invece il piede sinistro di Zapata va nettamente sul piede destro di Raneghi, quindi calcio di rigore nettissimo. Hanno protestato poi i giocatori dell'Udinese perché la conclusione dell'azione è stata con la rete di Natale. Quindi è stato immediato il fischio del direttore di gara, poteva concedere il vantaggio Celi, non l'ha visto e quindi ha preferito interrompere, cosa perfettamente concessa dal regolamento. Sì, è una discrezione quella di aspettare quel secondo più. Diciamo che si è assunto una responsabilità, perché se poi Di Natale avesse sbagliato il rigore probabilmente di questo episodio se ne sarebbe parlato ancora di più. Il rosso invece Boateng, siamo a 7-8 minuti dalla fine della partita, è entrato in maniera un po' scomposta su Pereiro. Inevitabile il secondo giallo, direi che già prima Boateng era meritevole di cartellino rosso quando con un'entrata da tergo netta sulle gambe di Pizzi Celi lo ha graziato con un cartellino giallo, quindi inevitabile l'espulsione del secondo giocatore del Milan. Sentiamo ancora un passaggio di Stramaccioni a Sky Sport. Il nostro atteggiamento era corretto, a me è la cosa che la sensazione peggiore che dobbiamo migliorare. Ma a Torino hai vinto però, Andrea, a Torino sì, hai ma vinto. Magari Massimo, questo è un discorso relativo, perché magari entrava una di quelle palle gol. No, nel senso, tu giustamente fai la tua analisi, io faccio da allenatore, magari entrava una di quelle palle gol e vincevamo lo stesso, ma il problema rimaneva. Non era, io sto parlando guardandola su un progetto di lavoro, non sulla singola partita. Quindi la sensazione è che nel momento in cui i nostri avversari ripartono, centralmente soffriamo un pochino troppo, e questa è la mia analisi con un tridente. L'analisi di Stramaccioni a Sky Sport, Graziano, è fatta sul progetto, però è anche vero che l'Inter in queste quattro giornate, due vinte, due perse, nessuno chiede probabilmente a Stramaccioni di vincere lo scudetto in questa sua prima vera stagione, l'Inter non è nemmeno costruita per farlo, però certo che se si comincia a non vincere o addirittura a perdere partite come quella in casa contro il Siena, le cose possono diventare complicate in fretta, non soltanto al Milan. Non soltanto al Milan, certamente anche l'Inter è complicata, perché l'Inter certamente, non hai detto bene, non ci credeva di vincere lo scudetto, però chiaramente soprattutto un piazzamento in Champions deve essere alla portata dei nerazzurri, anche perché hanno cambiato molto, è una squadra sicuramente rifatta, però ha dei grandi campioni, tutto questo non è assolutamente accettabile. L'Inter non è convincente dal punto di vista del gioco, non è convincente dal punto di vista del gruppo, sembra quasi una squadra così, creata in qualche modo, e ha accusa delle pause di rendimento altissime, l'abbiamo visto anche in Europa League, cos'è successo? Assolutamente. Bologna-Pescara, bisogna fare un po' di chiarezza sulle posizioni eventuali di fuorigioco, perché è da rivedere il primo gol, quello di Gilardino, su lancio di Garix. Per l'assistente di linea, Gilardino è in linea con i difensori del Pescara. Io ho l'impressione invece che la sua gamba sia oltre. E io invece sono proprio d'accordo con te, perché assolutamente l'assistente Stefani non si accorge che Gilardino è oltre l'ultimo difendente del Pescara, sul costo di Garic è davanti, prende posizione e ne approfitta di questa posizione per battere Perin, quindi è un gol assolutamente da invalidare. Netto invece il rigore a metà secondo tempo, che poi Diamanti sbaglia, si fa parare da Pellizzoli, ancora Gilardino sul filo del fuorigioco, messo giù da Perin, anche espulso, cartellino rosso. Partenza assolutamente regolare questa volta dell'attaccante del Bologna, molti dubbi sul provvedimento disciplinare di Perin, perché Gilardino sta ventando all'interno dell'area di rigore, ma c'era Modesto che stava rientrando, quindi a mio parere poteva intervenire. Un cartellino giallo sarebbe stato il provvedimento più giusto e più idoneo per quel tipo di situazione. Ci fermiamo un minuto per il traffico, Graziano, e a proposito di espulsioni che hanno fatto discutere, allora parleremo anche quella di Alvarez a Catania dopo 2 minuti per un fallo da ultimo uomo o per chiara occasione da rete, poi cercheremo di capire se ha fatto bene o ha sbagliato Bergonzi su Cavani. Traffico. 800 24 00 24, per le vostre telefonate voglio sapere cosa ne pensate di questa crisi del Milan, se Allegri merita ancora un'altra chance o no, e se anche Stramaccioni da questa sera deve un po' preoccuparsi dopo che la sua Inter ha perso in casa 2-0 contro il Siena, seconda sconfitta nelle prime 4 giornate. Inter che in casa non riesce davvero a trovare il filo del gioco. I messaggi al 349 238 6666, scriveteci su Twitter chiocciola tutti convocati o sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Graziano Cesari, allora, l'espulsione di Alvarez dopo 2 minuti, raccontiamo rapidamente l'azione, perché il difensore del Catania sbaglia il controllo, perde palla, Cavani è velocissimo, gliela toglie, siamo a 20-25 metri dalla porta di Andujar, i due entrano in collisione, cioè evidentemente fallo, per Bergonzi si tratta di una chiara occasione da rete e dunque cartellino rosso. Hanno molto protestato i giocatori del Catania. Credo, sono assolutamente d'accordo con la decisione di Bergonzi, a mio parere si tratta di chiara occasione da rete, Cavani è in possesso del pallone, è nettamente lanciato, quindi è molto più veloce di chiunque altro giocatore, davanti a lui solamente Andujar e la distanza è tale che gli permette di concludere, quindi sono assolutamente d'accordo con la decisione di Bergonzi, anche se avviene dopo circa 1 minuto e mezzo di gioco. Sì, da questo punto di vista grande personalità, la stessa, sì. Mi permetto di sottolineare, perché a noi piace anche parlare quando gli arbitri fanno bene, che ha dimostrato ad esempio ieri sera in Parma-Fiorentina Valeri ad assegnare 3 rigori e di fatto ad assegnare l'ultimo a tempo quasi scaduto su un'azione abbastanza confusa, quella del fallo di mano di Toni in mezzo all'area di rigore. Veramente molto molto bravo ieri sera Valeri, 3 rigori concessi, 3 rigori fischiati, assolutamente ineccepibile la sua direzione di gara, la sua condotta di gara, ti devo dire, se vogliamo cercare un piccolo nero in questa direzione di gara, Toni era già ammonito. Poteva essere espulso. Ma è proprio per cercare qualche cosina di grosso, cioè la direzione di gara è veramente eccezionale. Sì, anche se in realtà, Graziano, ma questo è un discorso che noi abbiamo già fatto settimana scorsa, c'è un po' di timidezza con i cartellini in questo inizio di stagione da parte dei direttori di gara. Anche oggi in Sampdoria Torino, in realtà Gastaldello e Meggiorini se le sono date di santa ragione per tutta la partita, l'hanno finita, entrambi ammoniti, ma l'hanno finita, e soprattutto sono stati anche protagonisti di quei testa a testa che ai vertici dell'AIA a inizio stagione avevano detto non sarebbero stati tollerati, non sarebbero piaciuti, eppure di cartellini gialli non se ne sono visti. Sì, è vero, è proprio la verità, cioè dalla gestione della partita spesso gli arbitri dimenticano il taschino o il cartellino giallo o il cartellino rosso, però oggi per esempio a Genova c'è un arbitro nuovo per quello che riguarda la Calvarese. Calvarese di Teramo, quindi dobbiamo dare il tempo di assimilare tutte queste regole nuove, è un ambiente per lui assolutamente importante. Questo abito è un abito giovane, deve digerire la Serie A, non è così facile. Sì, non è così facile avere la personalità per imporsi in una partita come quella di oggi, che tra l'altro a un certo punto nel secondo tempo sotto la pioggia è diventata difficile anche per i giocatori, perché abbiamo visto tante entrate al limite che sono diventate pericolose o fallose anche semplicemente perché il terreno di gioco era nel frattempo diventato scivoloso. Per chiudere, Atalanta-Palermo 1-0, tutto regolare, il gol di Raimondi che ha deciso la partita. Nel primo tempo il Palermo aveva segnato con Muñoz, gol annullato per fuorigioco. Bravissimo l'assistente Posada in questa situazione, la posizione di Muñoz è persistente, quindi ha fatto benissimo, è lui che conclude l'azione, quindi ha fatto benissimo ad alzare la bandierina e far annullare la rete. Grazie Graziano Cesari. Grazie a voi. Grazie Graziano Cesari, questa è la nostra moviola, andiamo a sentire subito Sky Sport Mazzarri. Bravissimi, complimenti a Maran, complimenti a loro. Ma questo che cos'è, un avviso ai naviganti? Questo Napoli può lottare per qualcosa di importante ma non per lo scudetto? Ma questo non l'ho detto io, non ho detto nemmeno che si lottava per lo scudetto, io non ho mai parlato di queste cose, io ho parlato sempre di crescita e miglioramento di una squadra, anche i ragazzi giovani, se non vengono, se non si fa le prove sempre nello stesso modo e si capisce i meccanismi eccetera. Abbiamo visto l'altra volta, erano cambiati 11, il Canovaccio non è cambiato, tutti sapevano interpretare il ruolo. Oggi nel 10 contro 11 ho provato a allargargli un po' il gioco, mettere i due sulle fasce, la difesa a 4, si è fatto confusione. Noi non si può prescindere dall'organizzazione, questo serve anche a me. È chiaro che giocatori evoluti che lottano da sempre per il vertice in certe situazioni leggono anche da sempre, invece oggi al di là poi che in 5-4 non lo so, eravamo veramente fuori, sembravamo fuori condizione, e non è giustificabile perché l'ho fatti lavorare, l'ho fatti riposare e bisogna che si ritorni a essere quelli che siamo, probabilmente il 10 essere rimasti in superiorità numerica per certi versi ci ha fatto credere di aver già vinto, non lo so. Deluso anche Mazzarri, insomma, Catania dopo lo 0-0 del suo Napoli, si è parlato del turnover, dell'impatto anche dell'Europa League sulle prestazioni in campionato. Il Napoli oggi di fatto ha giocato con una squadra che per 10 undicesimi non aveva avuto l'impegno infrasettimanale, eppure non è andata bene. Su Facebook a Tempo di Sport ci state scrivendo in tantissimi per commentare la crisi del Milan via Berlusconi e Gagliani, dice Stefano, altro che Allegri. E poi ancora, soltanto David Copperfield potrebbe risollevare il Milan, ci scrive Vitaliano. E poi ancora c'è chi chiede Delio Rossi sulla panchina rossonera, Roberto che chiede di mandar via in fretta Allegri, e ancora c'è chi chiede di promuovere Tassotti, è una delle ipotesi di cui si è discussa in questa settimana. In realtà le prime voci che stanno arrivando da Udine dicono che il Milan informalmente ha fatto sapere che Allegri è confermato e quindi rimane la fiducia nei confronti del tecnico, resterà sulla panchina, certamente si giocherà la prossima giornata, Milan atteso dalla sfida contro il Cagliari domenica pomeriggio, poi nell'infrasettimanale, e poi dopo ci saranno ancora impegni molto ravvicinati ogni 3 giorni. Cerchiamo di capire invece che cosa succede a San Siro. Dario Ricci. Sì, ben ritrovato Giovanni. Beh, si commentano già le prime parole di Stramaccioni, che ha detto bisogna trovare l'equilibrio giusto, ma prima di lasciar fuori tanti campioni voglio provarci a tenerli in campo. Comunque l'analisi del tecnico è stata chiara, diciamo un tridente così con Milito, Cassano e Snyder non riesce a distendersi in fase difensiva e a garantire le adeguate coperture, bisognerà rivedere qualcosa, ha detto Stramaccioni, ipotizzando anche la difesa al 3, a che viene da sorridere a pensare come è andata a finire l'anno scorso con Gasperini, che di questa soluzione difensiva è il maestro. Commenti anche sui fischi che sono arrivati da parte di San Siro, perché la Nord comunque ha garantito sempre il supporto anche durante questa sfida ai nerazzurri. Stramaccioni ha comunque glissato sui fischi che sono arrivati dagli altri settori dello stadio, ha detto in questo momento non abbiamo polemiche, anche l'applauso ironico fatto da Snyder verso i contestatori al momento della sostituzione, non è stato di fatto commentato da Stramaccioni, che ha sottolineato comunque di essere particolarmente soddisfatto dalla prova dell'olandese. Ecco, c'è un po' di nervosismo, anche questo applauso l'avevamo notato seguendo le partite, poi non c'era stato tempo per sottolinearlo in diretta, questo applauso che Sneijder ha riservato a chi criticava la sua prestazione. Tu che voto dai a Sneijder questo pomeriggio? Ma io do un 6,5 sinceramente, condizionato dal risultato finale, però, perché Sneijder comunque è stato, non è stato lo Sneijder perfetto, diciamo, ma è stato comunque il giocatore che più ha cercato di accendere l'azione offensiva dell'Inter, che anche più con maggiore efficacia ha concluso, in almeno 3 occasioni è stato Pegolo a dirgli di no. L'errore capitale è stato al 35esimo del primo tempo, quando lanciato da Cassano in contropiede a tu per tu con Pegolo, invece di cercare la conclusione sarebbe stato sul destro a giro, perfetta per lui, ha cercato un assist a quel punto improbabile per Milito, che era rimasto ben dietro il pallone. Quello è stato l'errore in cui probabilmente si è decisa, valutandola a posteriori, anche la sfida di oggi, Giovanni. Sì, intanto gli amici su Facebook stanno criticando duramente la prestazione dell'Inter di oggi. Con il Torino Stramaccioni è stato soltanto fortunato, ci scrive un nostro ascoltatore. E poi ancora Vittorio che dice: ma vi rendete conto che Stramaccioni è allenatore dell'Inter solo perché Moratti l'anno scorso, il giorno di Juventus-Inter, è andato a vedere la finale del torneo giovanile a Londra ed è un tifoso dell'Inter. E poi ancora Medeo: Milan e Inter si giocheranno il quart'ultimo posto che porta alla salvezza. Marco: giusto così, siamo stati battuti da una provinciale. Abbiamo visto un Moratti nelle immagini rabbuiato alla fine della partita, lui di solito percorre lo scalone che scende dalla tribuna e si porta verso gli spogliatoi. Hai avuto modo di incrociarlo? C'è qualche collega che gli ha parlato? No, guarda, ancora non siamo riusciti a incrociarlo, proprio perché stavolta, devo dirti, ti confesso, ho approfittato dell'ascensore per arrivare il prima possibile senza la stampa. Immagino che Moratti invece avrà accelerato il passo lungo le scale. Devo dire che all'Inter, a questi Inter, battute a parte, è mancato soprattutto il cambio di passo nell'azione offensiva, no? Anche quando sono entrati Alvarez, Coutinho pure ha avuto una buona occasione, ancora una volta protagonista Pegolo. Bene, però l'Inter non è riuscita a fare velocità, a fare quegli scambi rapidi e tanti fantasisti che portano un po' troppo il pallone, e poi appena la squadra si è allungata alla ricerca prima del vantaggio, poi del pari, il Siena, che comunque è sempre stato potenzialmente pericoloso perché Rosina, Calaiò, anche lo stesso Zeduardo, che si è sacrificato molto, avevano già nel primo tempo creato qualche potenziale pericolo. Ecco, a quel punto il Siena ha trovato anche lo spazio e ha concluso con 2 contropiedi da manuale. Ecco qui, allora, intanto ha finito di parlare a Catania Mazzarri, un Mazzarri davvero deluso, raramente l'abbiamo sentito così in questo inizio di stagione. Del resto il Napoli aveva costruito 2 squadre di fatto proprio per cercare di evitare ripercussioni dalle prove e dalle fatiche di Europa League, memore anche del passato. Non è bastato, Mazzarri deluso lo ha sottolineato su Twitter, @ tutti convocati. Ci state scrivendo Alex: chi di provinciale ferisce, di provinciale perisce, e ce l'ha con l'Inter e con Stramaccioni. Alessandro invece sul Milan: non si può giocare senza centrocampo, è quello il problema, non la difesa. Non si può giocare con un 4-1-5 perché è follia pura. E ancora per i tifosi del Milan, Fabio: l'incubo è il mercato, altro che Allegri. Ancora Alessandro sulla partita dell'Inter: la partita l'ha persa Stramaccioni, ha tolto 2 centrocampisti e abbiamo preso 2 gol. Tifosi del Milan intanto che sono scatenati, io vi ricordo 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ci fermiamo, pubblicità, meteo, poi torniamo per sentire anche Allegri. Pubblicità. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Allegri a Sky Sport. C'è stato, dopo i primi 20 minuti, credo che abbiamo perso un po' di palle gratuite in fase di disimpegno, e quelle che non andavano forse perse le abbiamo concesse. È normale che nelle 3 sconfitte che abbiamo fatto, tra Atalanta, Sampdoria e oggi, è normale che bisogna andare a a limare quelle situazioni in cui prendiamo gol. Vedi con la Sampdoria sull'angolo, sull'unica volta che hanno battuto l'angolo, vedi oggi la prima punizione che hanno battuto dopo 25 minuti, vedi il secondo gol dove c'è stato il rigore e l'espulsione. È normale che sono situazioni che vanno migliorate, però ragazzi, sotto l'aspetto del gioco, soprattutto oggi, non ho da rimproverare niente. Credo che continueremo a migliorare, sperando anche di trovare dei risultati. Ilaria. Questa è la difesa di Allegri, che ha detto anche il Milan ha fatto una buona partita, però ha perso. E allora apriamo la prima pagina di A Tempo di Sport di questa domenica 23 settembre, con Milano che cade ed entra in crisi. Perdono sia Milan che Inter. Allegri viene confermato dalla società, ma la squadra non ha reagito nemmeno schierata con il 4-3-3. Stramaccioni fischiato per la prima volta a San Siro, dove il Siena ha vinto in contropiede. E poi il Napoli fermato a Catania, non basta giocare 88 minuti in superiorità numerica per restare agganciati alla Juventus. Mazzarri deluso: non siamo mai stati ordinati in partita, eppure in Europa League avevano giocato le riserve, si rivedono vecchi vizi sotto il Vesuvio. E per chiudere, il calcio italiano rosso di vergogna per il rinvio di Cagliari-Roma, deciso dal prefetto dopo la provocazione di Cellino, che aveva invitato alla disobbedienza ai tifosi. La Roma vuole il 3-0 a tavolino, il silenzio del presidente del Cagliari, mentre all'estero ridono di noi. Metà dei nostri stadi è stato costruito da Mussolini. Allora, torniamo a San Siro da Dario Ricci, che è con un ospite. Dario. Sì, Giovanni, il nostro ospite Andrea Sorrentino, inviato di Repubblica. Tanti temi, tanta la carne a fuoco di questa domenica. Partirei anche dai titoli che hai appena ricordato. Nuovo record di inviolabilità a San Siro tra Inter e Milan. 8 partite con la sconfitta di oggi dell'Inter, il precedente 7 gare era addirittura del 1985. Allora chiedo subito ad Andrea: c'è un filo rosso che lega queste croniche difficoltà delle due milanesi qui a San Siro, pure se chiaramente il percorso stagionale è diverso e tortuoso per entrambi? Buonasera a tutti. Innanzitutto, il filo rosso è quello statistico dei numeri, poi io credo che Milan e Inter siano due squadre profondamente diverse quest'anno, proprio come struttura o come impostazione che è stata data loro dai dirigenti in estate. Del Milan si sa che c'è stato uno smantellamento e un depauperamento tecnico evidentissimo, dovuto a una serie di circostanze e di contratti in scadenza e di atleti che ormai erano giunti al termine di un ciclo. Nell'Inter c'è stato un diverso tipo di ricostruzione, perché ci sono stati degli acquisti anche di un certo livello, che hanno comportato un certo esborso di denaro. Ci sono state le rescissioni con i tre brasiliani che oggettivamente erano abbastanza arrivati a fine corsa. Quindi l'Inter è una squadra diversa, che aveva secondo me delle ambizioni diverse da un Milan minore quest'anno. Invece sta dimostrando anche l'Inter di avere un sacco di difficoltà, perché è una squadra che non ha equilibrio tra fase offensiva e fase difensiva, e soprattutto secondo me ha troppi giocatori di difficile collocazione tattica in campo, perché se hai Alvarez, Coutinho, Sneijder, Cassano e Palacio che finora non ha quasi mai giocato, per un allenatore è difficile metterli in campo, a meno che non hai poi un centrocampo solidissimo con incontristi di grande valore, un uomo d'ordine, ma l'Inter non ha neanche l'uomo d'ordine, il playmaker, e al tempo stesso secondo me non ha difensori ancora di livello eccelso, perché Ranocchia e Juan Jesus, che abbiamo elogiato a Torino contro Sgrigna e Bianchi, oggi hanno fatto delle figure abbastanza barbine nelle fasi decisive della gara. Quindi è una squadra ancora molto, molto indietro l'Inter, ed è allarmante perché è una di quelle che ha iniziato a lavorare per prima. Sentiamo un attimo ancora un passaggio di Allegri a Udine. Essere un pochino più attenti. Oggi abbiamo preso due gol, uno sul calcio di punizione e l'altro praticamente sul rigore venuto da un calcio d'angolo, che si è seguito un calcio di punizione dove abbiamo risbagliato di nuovo sulla marcatura. E quindi credo che con la Sampdoria hanno tirato un calcio d'angolo, abbiamo preso gol, grandi occasioni in contropiedi come avevamo preso dei gol all'inizio, come è successo a Madrid e come è successo nel Berlusconi contro la Juventus, perlomeno quello l'abbiamo un po' migliorato. È normale che per giocare così alti ci vuole un grande dispendio di energie, ma questa squadra deve Allegri solamente... che difende ancora il suo Milan. Dario, a me interessa capire da te e dal tuo ospite se con oggi si può cominciare a dire che il credito di Stramaccioni in qualche modo va esaurendosi, perché è stato accolto con grandissima simpatia, ha fatto anche bene l'anno scorso, però anche è vero che un minimo di risultati a questo punto gli vengono chiesti. Assolutamente sì, infatti era proprio la domanda che stavamo per fare ad Andrea Sorrentino di Repubblica. Andrea, dicevamo con Giovanni da studio, finita la luna di miele con Stramaccioni, golden boy della panchina, è arrivato con grande credito, adesso però servono pure i risultati. Eh sì, questa poi è la dura legge dello sport, poi uno può essere simpatico o meno, può entrare nel cuore dei tifosi e dei suoi dirigenti, ma è chiaro che in mancanza di risultati poi la vita si fa dura per tutti. Stramaccioni è un allenatore, come tutti sappiamo, agli inizi, pare che sia un ottimo allenatore in campo, almeno i giocatori lo hanno giudicato così, altrimenti non avrebbe resistito alla falcidia estiva neanche lui, però evidentemente non sta riuscendo a trovare la quadratura del cerchio a livello tattico. Ha avuto anche dei giocatori che gli sono arrivati un po' in ritardo alla fine della campagna acquisti, come Gargano, Pereira e Cassano, ma secondo me, ripeto, questa Inter ha un problema strutturale con troppi giocatori, con troppe mezze punte evanescenti, difficilmente collocabili in campo, e poi secondo me, in ultima analisi, una squadra che affida i propri destini interamente a due giocatori come Sneijder e Cassano, io temo che non sia destinata a un luminoso avvenire, perché ho delle fortissime riserve su entrambi. Chi esce, maestro? Dario, chi esce nelle scelte che dovrà fare Stramaccioni? Infatti, maestro dell'eufemismo, tra l'altro, Andrea Sorrentino, in quest'ultima battuta. Andrea, ti chiediamo anche chi esce a questo punto, perché Stramaccioni è simpatico a tutti finché li fa giocare tutti, ma adesso dovrà andare a dire a Sneijder o a Cassano, o addirittura forse a Benito, ma è l'unica punta, non è possibile, che dovranno stare in panchina, e allora forse sarà meno simpatico a qualcuno. Ottima annotazione, Dario Ricci, puntuto, simpatico finché li fa giocare tutti. Io non considero Antonio Cassano un titolare possibile in una squadra che punti al vertice, ma non perché lo pensi io, perché credo che lo racconti la sua carriera, purtroppo ormai Cassano ha 30 anni, lo conosciamo bene, non può più essere una scommessa. Penso che Stramaccioni proverà a ripartire con una difesa a tre da Chievo-Inter di mercoledì, lo ha già praticamente annunciato, con Chivu in mezzo ai due centrali, perché l'Inter ha un problema proprio nella costruzione iniziale del gioco, e potrebbe essere Chivu il terzo difensore centrale in grado di avviare l'azione. Faccio un paragone per dire il De Rossi nazionale nella prima partita degli europei, e poi ci dovrà essere un centrocampo molto da combattimento, e poi due giocatori dietro Milito, che è insostituibile anche se oggi ha giocato malissimo, però rimane il centravanti unico dell'Inter, e due giocatori non possono essere altri che Sneijder e Palacio. Credo che questo sia l'inizio di una ricostruzione, sempre che Palacio sia disponibile, perché è già diventato uno dei grandi infortunati della storia recente dell'Inter. Approfitto ancora della disponibilità, sì, di Andrea, una battuta, Giovanni, che poi andiamo al traffico, Dario. Infatti, proprio 30 secondi su questo Cagliari-Roma, che è diventata l'ennesima pagina nera del nostro calcio, brutta figura di cui non sentivamo proprio la necessità. No, non ne sentiamo la necessità, perché siamo sommersi da brutte figure, ma è già qualche anno che a Cagliari va in onda un balletto vergognoso su questa storia dello stadio. Prima il Santelì, adesso il Arenas. C'è un problema di mancato intervento delle istituzioni su questa vicenda. Adesso partono le inchieste, adesso finalmente la Lega Calcio si è risentita per il comportamento di Cellino, e forse da adesso in poi ci potrà essere un avvio di soluzione del problema. È troppo tempo che a Cagliari c'è l'anarchia per lo stadio e lasciano fare a Cellino un po' tutto quello che vuole, ed è questo l'errore di base. Da San Siro è tutto, Giovanni. Grazie ad Andrea Sorrentino di Repubblica. Grazie ad Andrea Sorrentino. Io da te, Dario, volevo sapere se avete notizie di Moratti, se è tornato a casa, se è giù negli spogliatoi con la squadra. Insomma, qual è il termometro oggi di questo pomeriggio a San Siro, pomeriggio brutto per i colori nerazzurri? Sì, direi con una battuta, missing in action il presidente, perché al momento, almeno per quanto mi risulta, non ha ancora rilasciato dichiarazioni e non siamo riusciti ancora ad incrociarlo. Sentiamo, scusami Dario, c'è il CT della Nazionale di Ciclismo Bettini su Rai 1. Tanti bei risultati. In realtà a parte qualcuno che magari aveva la condizione per stare in un gruppo come questo o su un percorso come questo, il resto dei ragazzi, quelli che sono qua, quelli che hanno corso, tutti hanno dimostrato di poter stare in questa squadra. Tu avevi parlato di Ballan, che ti è dispiaciuto non portare, e Gasparotto, che non poteva venire per il problema alla clavicola. Ma ripeto, qualcuno c'era, uno per un motivo, uno per un altro, però il 99% della squadra è questa, anzi il 100% è questo, perché escluso chi e come di consueto si aprono i processi, perché è vero che questa nazionale non partiva tra le favorite al mondiale di Falkenburg, vinto poi dal belga Gilbert, però è anche vero che la tradizione italiana chiama sempre a lottare per la vittoria. Non è successo e già si è aperto il processo per Paolo Bettini. Per chiudere da San Siro, Dario, dicevi, allora non si hanno notizie di Massimo Moratti? No, al momento no, non ho ancora rilasciato nessuna dichiarazione, probabilmente è anche un momento di riflessione, visto che poi incombe il turno infrasettimanale e Moratti forse vuol prendersi qualche minuto, qualche mezz'ora in più prima di surriscaldare ulteriormente un ambiente e soprattutto mettere in qualche modo in difficoltà uno Stramaccioni che è al suo vero primo grande momento difficile nella sua pur breve storia sulla panchina nerazzurra, quindi potrebbe essere anche questa una strategia, anche se diciamo, viste le abitudini in casa nerazzurra, mi sembra fin troppo ragionata per me. Grazie Dario Ricci, ovviamente pronti a tornare a San Siro se c'è la voce del presidente dell'Inter. Intanto notizie da Udine: il Milan fa sapere che rimane unità di intenti tra il presidente, i dirigenti e Massimiliano Allegri, perché nella partita con l'Udinese, questa è la valutazione che fanno i vertici di Via Turati, sono stati visti dei miglioramenti. Ci fermiamo, il traffico e poi ancora con la nostra prima pagina. E allora sta parlando Cambiasso da San Siro, una delle voci dello spogliatoio dell'Inter, battuta 2-0 dal Siena. Sentiamo lo Sky Sport. Però penso che oggi le occasioni contro che mi vengono così in mente, tranne il secondo gol, che sempre quando c'è un primo perdi in casa, diciamo che un po' la situazione è che se ti fanno un altro il rischio bisogna prenderlo. Nel primo tempo, dove abbiamo spinto tanto, l'unica occasione che mi viene veramente in mente netta di gol del Siena è quel calcio d'angolo che Andrea è stato molto vicino a fare un'autorete. Poi credo che gioco loro, nemmeno nei contropiedi abbiamo subito. Poi secondo tempo, ogni volta quando passano i minuti hai più l'obbligo di rischiare qualcosa in più e lì l'Inter è andata un po' in affanno, è questo che sta dicendo Cambiasso, ovvero però che Siena ha avuto davvero tante occasioni al di là dei due gol di Vergassolo e Valiani che hanno deciso la partita. Ricordo i numeri 800 24 00 24 per le vostre telefonate, numero verde, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma potete scriverci anche su Twitter @ tutti convocati, oppure su Facebook la nostra pagina A Tempo di Sport. Invece noi riapriamo la prima pagina di A Tempo di Sport di questa domenica 23 settembre. Con Milano che entra in crisi, cadono sia Milan che Inter. Allegri viene confermato proprio in questi minuti dalla società, ma la squadra non ha reagito nemmeno schierata con il 4-3-3. E invece a San Siro, Stramaccioni fischiato per la prima volta dai tifosi. Il Siena ha vinto 2-0 in contropiede. E poi il Napoli fermato a Catania, non basta giocare 88 minuti in superiorità numerica ai partenopei, la Juve scappa e ora ha più 2 sul Napoli. Mazzarri deluso, aveva schierato le riserve in Europa League ma non è bastato. E infine la vergogna del calcio italiano per il rinvio di Cagliari-Roma deciso dal prefetto, la Roma vuole il 3-0 a tavolino, in silenzio a Miami il presidente Cellino, all'estero però ridono di noi, metà dei nostri stadi, pensate, è stato costruito nell'epoca di Mussolini. Buon pomeriggio a Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo, buon pomeriggio Matteo. Pomeriggio, ben trovati. Abbiamo sintetizzato bene, ma non ti sto chiedendo un voto, questa domenica di calcio, una domenica che non è stata per nulla banale, nel bene e nel male. Sì, direi che sono stati toccati tutti i punti, ne esce molto credo la forzata la Juventus, che ha dato in questa settimana una dimostrazione di grandissima forza sia in campo europeo rimontando una partita molto difficile a Stamford Bridge, e direi con la vittoria di ieri, che alla luce del pareggio di oggi del Napoli, ancora di più delle due sconfitte clamorose dei milanesi, rafforza la posizione di questa Juve, che diventa lo era già, ma insomma la grande candidata alla vittoria. Hai sentito Allegri difendere il suo Milan, ha detto è stata una buona partita anche se abbiamo perso, continuiamo a essere puniti da alcuni episodi. Ma sai, lui cerca di trovare il positivo in quella che è una comunque un momento di situazione difficile. Ma sai, tre sconfitte in quattro giornate e anche la vittoria di Bologna, che è stata fin qui l'unica, diciamo, abbastanza agevolata anche dall'arbitraggio, da quello che è successo, da un errore clamoroso di Agliardi, perché mi ricordo che col Milan nel secondo tempo Bologna aveva iniziato molto male. Cioè, ci sono dei problemi grandissimi, adesso lui sta provando, oggi ha provato tatticamente un po' a cambiare la squadra. La mia impressione è che veramente la qualità, il materiale che ha in mano sia molto scadente. Ti è piaciuto questo 4-3-3? È partito il Milan con Pazzini prima punta, El Shaarawy ed Emanuelson larghi, uno a destra ed uno a sinistra. A centrocampo è tornato Montolivo, che era un po' atteso come l'uomo della provvidenza. A me non sembra che abbia spostato gli equilibri. No, non li ha spostati. Mi sembra anche che non sia uno schema nelle corde di Allegri. Io diffido gli allenatori che a un certo punto, per trovare la soluzione, incominciano a cambiare la tattica. Credo che un allenatore debba avere un proprio modulo in testa, una propria idea di calcio, e debba costruire su quella. Adesso sento per esempio Stramaccioni parlare di difesa 3, che tra l'altro l'anno scorso costò il posto a Gasperini proprio sulla panchina dell'Inter. Per quale ragione devi dopo quattro partite cambiare il modulo? Allora significa che tutto il tuo credo calcistico, tutte le tue convinzioni non sono così solide. Semmai devi lavorare sul tuo schema per migliorarlo, cercando forse l'interprete più adatto e le soluzioni più adatte. Sentiamo una battuta di Guidolin da Sky Sport. Per una squadra come la nostra, ancora di più per una squadra come il Milan, che sono abituati a vincere abbastanza spesso, arrivarci per noi dopo un mese sa un po' di liberazione, anche se abbiamo appena cominciato. Però i segnali che ho visto giovedì in Europa League li ho rivisti oggi, allora dobbiamo essere fiduciosi su quello che può essere il nostro futuro, che non sarà certo quello di una squadra che può competere per i vertici della classifica come lo scorso anno e l'altro ancora, ma mi auguro che trovi al più presto una certa tranquillità in classifica. Questo Guidolin che commenta la vittoria 2-1 dell'Udinese sul Milan, Udinese che si è rimessa in moto. Matteo Marani, direttore del Guerin Sportivo, dopo un inizio difficilissimo, io credo anche dal punto di vista psicologico, perché la botta dell'eliminazione nel preliminare contro il Braga non è stata semplice da superare. Sì, ma credo che fosse soltanto questione di tempi. Insomma, l'Udinese dà assolute garanzie di continuità, dei risultati, del lavoro. Tutte le squadre che in questi anni hanno fatto il preliminare hanno avuto un po' un contraccolpo in campionato. Penso per esempio alla Sampdoria, che andò fuori nel preliminare, poi addirittura la situazione si fece drammatica dopo il mercato di gennaio con la retrocessione, ma all'inizio fu comunque duro, stentato, perché devi ritrovare la tua dimensione, si accumula amarezza, si accumula difficoltà, in questo caso particolare anche di Guidolin, che mi è sembrato molto disorientato dopo l'uscita. Insomma, ha dovuto elaborare, come se avesse dovuto elaborare questa uscita, però ero convinto che si sarebbero ripresi, rimango convinto. Tra l'altro continuano a pescare, voglio dire, giocatori da mettere in primo piano. Sì, oggi si è visto questo Raneghi, che sì, era un po' un oggetto misterioso. Sì, che non è giovanissimo, nel senso che credo che abbia già 27 anni, insomma, è un giocatore con una certa, però è comunque una bella rivelazione per il nostro campionato e per l'Udinese di oggi. Napoli ti ha deluso? Ma sì, guarda, deluso il suo allenatore, sentivo le parole di Mazzarri, perché se il Napoli vuol fare quello scatto, cioè se vuol diventare l'anti-Juve, se vuol diventare la squadra scudetto, a Catania deve vincere, soprattutto deve vincere se gioca 11 contro 10 tutta la partita. Io credo che oggi sia mancato l'Avezzi, cioè oggi abbiamo testato che cos'è una partita il Napoli senza l'Avezzi, che era il giocatore che magari appunto con la giocata, l'invenzione, l'esito, il colpo geniale ti portava a risolvere questo tipo di partite qui. Detto che Catania è un campo storicamente difficile per il Napoli, ha avuto sempre grandi complicazioni, però oggi sarebbe servito veramente molto. Va bene, ti chiedo l'ultima battuta sulla figuraccia che abbiamo fatto. Ti risparmio la rassegna stampa dei siti stranieri dal mondo deportivo che addirittura ha scritto che Cagliari-Roma è stata sospesa per strane circostanze fino ad esempio al sito di Sky Sport UK, quindi siamo in Inghilterra, dove scrivono che il Cagliari è andato allo scontro e si è chiamato fuori. Loro hanno perfettamente chiaro che cosa è successo, cioè che è stata una sorta di suicidio quello del presidente cagliaritano Cellino. Noi prima abbiamo sentito il presidente della Lega Calcio Beretta molto contrariato, perché spiegava è stata una settimana di trattative, si era arrivati comunque a un punto d'incontro, alla possibilità di tenere aperto un discorso anche in vista delle prossime settimane e delle prossime gare casalinghe del Cagliari, e invece Cellino ha in un certo senso deciso di far saltare il banco. Guarda, trovo l'atteggiamento di Cellino irresponsabile, pericoloso e dannoso. Non si scherza con l'ordine pubblico, non si possono dire le cose che ha detto lui. Credo che sia il responsabile principale di tutta questa situazione, che è kafkiana, che è assurda, di una squadra che praticamente non ha più stadio da un anno, che continua a vagare, e che lui pensa di poter fare come gli pare, quindi decidere lui che cosa fare, quando, in che tempi, in che modi, e di usare in maniera ovviamente strumentale i tifosi, quali stessi tifosi però non si vogliono far usare, tant'è che per esempio gli hanno fatto cancellare la famosa scritta che lui di sua iniziativa aveva messo sulla curva. Sconvolta. Sì, è una situazione, vorrei dire irreale, invece purtroppo è tristemente reale, appartiene al nostro calcio, appartiene a questa classe dirigente, io la considero da tempo la peggiore del dopoguerra, purtroppo dobbiamo fare i conti con questi. Beretta sia duro, ma credo che la cosa sarà praticamente impossibile conoscendo Beretta. E poi vedremo anche, Matteo, quali saranno le decisioni del giudice sportivo. Siamo in chiusura, grazie a Matteo Marani, direttore del Guerri Sportivo. Grazie Matteo. Grazie a voi, buona giornata. Ci fermiamo per il notiziario, torniamo subito dopo, ci sono novità che vengono anche da San Siro, restate con noi. Abbiamo ancora un'ora per stare insieme, io vi ricordo i numeri per dire la vostra in diretta: 800 24 0024 per le vostre telefonate, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma potete scriverci anche su Twitter @tutticonvocati, oppure sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport. Sta parlando Serse Cosmi dagli spogliatoi di San Siro. Il suo Siena, ricordiamo, ha battuto a sorpresa 2-0 l'Inter di Stramaccioni che non riesce a uscire da questo incubo del tabù di San Siro. Tra Inter e Milan fanno 8 partite senza vittoria. Sentiamo Cosmi. Sì, insomma, noi andiamo alla ricerca. Oggi si diceva che era una partita dove non avremmo avuto niente da perdere, invece il nostro campionato ci impone di avere qualcosa comunque da perdere, perché bisogna fare qualche punto in più di quelli che normalmente ha fatto il Siena in questi ultimi anni quando si è salvato. Questa consapevolezza c'è, però ci sono anche le possibilità, e quindi abbiamo dei giocatori che praticamente giocano insieme da 2 settimane, perché Zeroard e Rosina sono arrivati 2 settimane fa. Il sistema di gioco è cambiato, quindi non giochiamo più 3-5-2, ma giochiamo un 3-4-2-1, e tutto questo lo stiamo verificando in campo. Credo che abbiamo perso solo una partita anche in maniera non discutibile, sicuramente per leggerezza contro la Sampdoria, e poi il resto non abbiamo mai perso, neanche in precampionato. Quindi ed è un Serse Cosmi che certamente può essere soddisfatto di quello che ha visto oggi a San Siro, dove torniamo per un secondo da Dario Ricci, perché pare invece che Massimo Moratti non sia andato a casa. Sì Giovanni, le ultime notizie che siamo riusciti a raccogliere qui da San Siro è che il presidente è ancora nella pancia dello stadio, nella sala executive. Più probabile che non parli e che addirittura passi negli spogliatoi per incontrare magari i giocatori che stanno uscendo alla spicciolata. In questo momento alle 18:10, nel momento in cui ti parlo, ancora nessuna dichiarazione, e il presidente ci risulta essere ancora a San Siro vicino alla squadra. C'è molto da discutere, ci hanno scritto via sms al 349 238 6666: Stramaccioni deve andare via perché la sua Inter è troppo debole dietro. Saluto e ringrazio Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, che ieri sera se l'è vista con la Juventus. Buon pomeriggio Di Carlo. Buon pomeriggio a tutti. Non è andata benissimo, però diciamo la verità, e oggi l'hanno scritto tutti, era difficile non perdere a Torino in questo momento contro una squadra che sembra nemmeno essere andata in vacanza dopo lo scudetto dell'anno scorso. Ma sicuramente si è anche rinforzata e ha mantenuto quello che è la sua capacità di aggressività, di qualità tecnica, e ripeto, e si è anche rinforzata. Quindi abbiamo trovato una grande Juventus, noi siamo stati bravi a rimanere compatti, sapevamo che dovevamo farlo per gran parte della partita e provando a sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche, però la Juve, diciamo che ieri alla lunga ci è stata superiore. Impressionante l'impatto fisico della squadra di Conte. Sì, sì, ma non lo sapevamo, è chiaro che abbiamo cercato di abbassare un po' i ritmi della Juve, ci siamo riusciti per parte della partita, è chiaro che non bisogna mai fare un errore, non bisogna mai farsi trovare un po' di spazi larghi, infatti tutte le volte in cui ci hanno trovato con un po' di spazi loro sono stati bravi con la qualità tecnica e con l'aggressività poi a mettersi in difficoltà. Ripeto, il Chievo sicuramente poteva fare qualcosa di più sotto l'aspetto, diciamo, delle ripartenze, del gioco un po' più in velocità, però gran parte del merito fa parte della Juve. Sì, ho letto anche qualche critica che dal mio punto di vista reputo assolutamente ingiustificata al Chievo, cioè un atteggiamento forse un po' troppo passivo fin dall'inizio, con quattro difensori, tre centrocampisti che rientravano di fatto schiacciandosi molto vicini alla linea dell'area di rigore. Però io credo sia difficile quando di fronte hai una squadra che esprime qualità, forza fisica, impatto, fame, voglia di vincere in un ambiente come quello dello stadio della Juventus, poter fare qualcosa di diverso se magari la gara non gira dall'inizio con un episodio particolare. Sì, sì, ma noi guarda, l'avevamo preparata in una certa maniera, quindi avevamo fatto anche bene le cose che dovevamo fare come compattezza di squadra. Pronto? Sì, ci siamo. Ah, sì, compattezza di squadra. Ci è mancato magari sicuramente un po' l'attacco dove dovevamo tenere un pochino più la palla, ma non era facile, semplice con la Juve che ti viene a pressare in tutte le parti del campo, quindi lì ci voleva una giocata un po' più indirizzata oppure uno scarico in una profondità. Infatti quando ci siamo mossi e siamo riusciti a farlo con una qualità tecnica, criticamente siamo riusciti a metterla in campo, abbiamo fatto le nostre azioni. È chiaro che però nell'arco dei 90 minuti, ripeto, che la Juve ha dimostrato di essere superiore. Io ricordo il numero verde 800 24 00 24 per le telefonate da casa, 349 238 6666 per gli sms. È una Juventus questa, Domenico Di Carlo, che fa corsa da sola in questo campionato per lo scudetto? Tu hai avuto la possibilità col Chievo in una settimana di vedere sia la Lazio che la Juventus. Ma assolutamente, la Juve è molto più completa, anche con i ricambi penso che siano giocatori veramente straordinari, voglio dire, Quagliarella era 20 giorni che non giocava, mi sembra, anzi un mese che non giocava, in una partita e mezza ha fatto 3 gol, ecco, questo fa capire lo spirito della Juve, fa capire soprattutto come si allenano e che mette da anni. E questo è gran parte merito dei tecnici della società e dei giocatori che hanno assunto quella mentalità che la Juve deve avere per riuscire a vincere in tutti, diciamo, sia in campionato ma soprattutto essere protagonista anche in Champions League. Ci ha chiamato Francesca da Milano, interista delusa. Francesca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Insomma, ma non si può proprio giocare così però, qui siamo tutti delusi, non si può, non è possibile. E non sono d'accordo col giornalista che ha dato 6,5 Snyder. Snyder si meritava un 5 perché ha giocato malissimo. Abbiamo avuto un sacco di occasioni buttate via. Non vi è piaciuto niente, insomma. Grazie Francesca. Di Carlo, io non so se hai visto la partita dell'Inter contro il Chievo, però volevo farti fare... Contro il Siena, scusa, sì, però volevo farti fare un ragionamento, credo di sì, perché poi Chievo-Inter è la gara di mercoledì sera, quindi immagino che tu abbia seguito la prestazione dell'Inter, sì, con un occhio attento. Che cosa ti è sembrato? Che l'Inter ha fatto la sua gara, nel senso di provare ad attaccare, ha avuto le sue occasioni il primo tempo e anche in parte il secondo tempo, poi come succede nel calcio, il Siena ha fatto una buona fase difensiva, però non ha mai fatto mancare di pungere l'Inter. Questo lo si vedeva chiaramente nella partita e Degolo ha fatto 2-3 parate straordinarie e come succede nel calcio il primo errore che può succedere, il Siena ha fatto gol e comunque alla fine l'Inter ci ha provato fino in fondo, ma il Siena ha difeso bene ma è rimasta sempre pungente. Questo penso che abbia fatto un po' è il succo della partita. E tu hai preso appunti, perché mercoledì sera, in ogni caso mi pare di poter dire, dimmi se lo condividi, che l'Inter è davvero un progetto soltanto agli inizi e quindi esposto a questi alti e bassi, a giornate come quella di oggi in cui magari meriti anche di non perdere, però alla fine se perdi è perché non sei pronto, perché sbagli, perché in difesa sei troppo debole, e alla fine in fondo è un po' la legge del calcio questa. È la legge del calcio, questa è la legge del calcio, che bisogna sempre mantenere equilibrio fino al 95esimo, soprattutto squadre come l'Inter che comunque hanno davanti giocatori che ad ogni momento della partita si possono risolvere con un tiro, con un dribbling, con un rigore, con un colpo del campione. È chiaro che l'Inter, ma il Milan soprattutto, che in casa hanno giocato fino adesso, non hanno fatto punti, quindi è incredibile che in casa fanno più fatica sulle cose dell'Inter, mentre fuori casa mi sembra che lì stia facendo abbastanza bene. Sì, sta diventando quasi una maledizione questa di San Siro. Quindi per noi sarà sicuramente duro, però anche noi abbiamo bisogno di punti, quindi faremo una partita insieme all'Inter di grande intensità, di grande determinazione. Potete provare a chiedere l'inversione del campo per fare una battuta per chiudere. No, speriamo di far bene anche noi in casa, perché con la Lazio abbiamo già pagato dazio per quanto riguarda le occasioni avute e subite, perché la Lazio ha fatto 3 tiri in porta, 3 gol, mentre noi nei 4 tiri in porta non siamo riusciti a... nonostante le occasioni importanti che abbiamo avuto. Quindi bisogna far tesoro di quello che è successo con la Lazio e mettere in campo le qualità del Chievo, che sicuramente fronte a una grande squadra dovranno essere sempre di grande concentrazione e di grande intensità. Grazie a Mimmo Di Carlo. Grazie a voi. Grazie a Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, che ieri ha perso contro la Juventus, mercoledì sera contro l'Inter. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 0024 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi, ma potete scriverci anche su Twitter, @ tutti convocati, oppure sulla nostra pagina Facebook A Tempo di Sport, dove qualcuno chiede Gianni De Biasi prossimo allenatore del Milan. Poi andremo a Udine per capire come la società rossonera sta vivendo questo dopo partita, la terza sconfitta nelle prime 4 giornate contro i friulani. Umberto da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Volevo fare solo un'osservazione. Io sono ovviamente di Roma e sono della Lazio. Si parla sempre dell'Inter, del Milan e della Juventus. Quel signore lì del Chievo, quel signore un po' pelato, l'allenatore... Mimmo Di Carlo. Ha detto un momento, lei ha fatto una domanda giusta, ha detto: ha incontrato la Juventus e la Lazio nelle ultime partite, che ne pensi? Ah, la Lazio non ha nemmeno parlato, ha detto: ora la Lazio ha vinto 3-1, essendo in vantaggio 3-0, avendo preso un rigore all'ultimo momento. La dovete smettere di essere così parziali. Lei parla solo della Juventus, del dramma di Moratti, dove sta Moratti, ma che ci frega? Deve anche capire che in una domenica pomeriggio in cui le romane non hanno giocato, e comunque della Roma abbiamo parlato ampiamente, forse lei si è perso l'intervento con il presidente della Lega Calcio Maurizio Beretta, perché la Roma oggi, la informo, non ha giocato, la Lazio giocherà questa sera. In un pomeriggio in cui le due milanesi perdono, il Milan alla terza sconfitta in 4 partite, ci sono anche dei valori di notizie di cronaca che vanno oltre magari il tifo. Però io le dico, ad esempio, che una delle notizie di questo pomeriggio è che se questa sera la Lazio confermerà di avere continuità di risultati come ha avuto in questo inizio di stagione, per la Lazio si apre la prospettiva forse di un campionato che nemmeno il presidente Lotito o Petkovic pensavano di poter ipotizzare a inizio stagione, o no? È d'accordo? Siete partigiani, solo parlate di Juventus, Milan e Inter. Va bene, la ringrazio Umberto, ci richiami anche settimana prossima e cercheremo di parlare delle romane. Andiamo a Udine, Pierluigi Pardo, collega di Mediaset Premium. Pierluigi, buon pomeriggio. Come va? Siamo un po' partigiani, perché parliamo del Milan e dell'Inter questo pomeriggio. Ne parliamo male, però evidentemente infatti, siamo partigiani. Infatti rischiate con questo che da un lato i romani o i napoletani si arrabbiano perché non si parla delle romane o del Napoli, e dall'altro che invece si arrabbiano i milanesi perché se ne parla perché hanno perso. Quindi si finisce come Vito Franco nella scena di quel film famoso che aveva la giacca double fast romanista da una parte e laziale dall'altra, alla fine viene cercato da tutti. Che dici Pierluigi? Diciamo due cosine sul Milan o siamo fuori tema? In questo pomeriggio che ha visto la terza sconfitta su quattro partite per Allegri, io ho letto prima in diretta il tuo tweet, chiocciola Pierluigi Pardo, sei stato il primo ad informarci che il Milan va avanti con Allegri, addirittura perché sono stati visti dei miglioramenti. Hai capito, una roba seria. Sì, miglioramenti secondo me su qualcosa si sono visti. Su altro no, mi spiego, a me sembra che oggi la squadra abbia giocato con sicuramente più spirito, più mentalità, con una produzione offensiva migliore, quindi più palle gol, un po' di ispirazione in centrocampo all'andata a differenza delle altre partite, comunque Montolivo che non è ovviamente un trequartista, non è un giocatore solo tecnico, però in questa squadra, in questo centrocampo così povero dal punto di vista della fantasia, diventa fondamentale, imprescindibile. Di contro invece oggi il Milan ha ballato molto sulle situazioni di palla inattiva, quindi secondo me ci sono stati dei passi avanti in alcune zone di campo e dei passi indietro in altre zone di campo. Quello che ha detto Allegri è proprio un calcio, secondo me è l'elemento decisivo, cioè questa squadra non riesce a difendere dalle parti della propria area di rigore, quindi deve giocare molto alta perché se porta gli avversari sulla propria tre quarti o al limite dell'area di rigore veramente rischia tantissimo. Sì, questo 4-3-3 è soltanto però un momento di passaggio verso, sì, si è detto il 4-2-3-1, o davvero è qualcosa in cui Allegri i giocatori credono, perché comincia a essere anche il terzo modulo cambiato nell'arco di due settimane e non è mai un buon segnale. No, ma poi non è un 4-3-3 vero quello che abbiamo visto oggi, nel senso che Manuelson ha fatto una partita da esterno di centrocampo abbastanza alto, io ho visto in certi momenti quasi un 4-4-2, insomma Manuelson si abbassava moltissimo perché ha ovviamente altre caratteristiche, poi insomma il problema del Milan secondo me è che quando tu perdi un punto di riferimento come Ibra, che in qualche modo ha rappresentato anche una scorciatoia, cioè io credo che la scelta di Allegri due anni fa di rinunciare al regista, di rinunciare a Pirlo, per quanto dolorosa e discutibile, avesse un suo senso, perché Ibrahimovic è un giocatore che le partite in Italia le vince da solo e che in qualche modo ti porta a semplificare appoggiandosi direttamente su di lui. Però adesso che Ibra non c'è più, serve una produzione da parte del centrocampo di idee di qualità che fino a questo momento non si sono viste, soprattutto nelle partite in casa contro squadre che si chiudevano, penso all'Anderlecht, all'Atalanta e alla Sampdoria, il Milan veramente non dava mai un'idea di pericolosità. Oggi un po' meglio perché c'era qualche spazio in più, perché è rientrato Montolivo, perché il Milan comunque la partita l'ha approcciata con voglia, e questa secondo me è l'unica cosa positiva della giornata rossonera, cioè rispetto al passato si è vista una squadra che non ha mollato, che ha avuto delle reazioni nervose fino alla fine, che anche 9 contro 11 ha fatto il possibile per buttare il pallone in mezzo e costruire qualcosa, e quindi da questo punto di vista ha dimostrato di essere con l'allenatore, ecco. Su questo non almeno da questo punto di vista, da casa ci contestano, o meglio contestano ad Allegri il fatto di essersi detto contento dopo il pareggio 0-0 con l'Anderlecht perché non aveva preso gol, mentre oggi si è detto soddisfatto per aver visto dei miglioramenti e il Milan di gol ne ha presi due. Per chiudere, Pierluigi Pardo da Udine, collega di Mediaset Premium, quanto è di facciata la fiducia che il Milan concede ancora in questo difficile pomeriggio a Massimiliano Allegri? Perché nel turno infrasettimanale c'è la sfida contro il Cagliari in casa, che a questo punto io credo abbia un unico risultato per il Milan, che è la vittoria. Si va fino al 7 ottobre con il derby, dopo però c'è la sosta, e a quel punto io credo andrà fatta una riflessione. Sì, beh, è chiaro che se la situazione dovesse precipitare, insomma, per quanto il Milan non sia una società, diciamo, zampariniana dal punto di vista delle sostituzioni di allenatori, però io credo che quell'ipotesi ci sarebbe. Devo dire che oggi quella di oggi è una notizia importante, perché diciamo che insomma se ci fosse stata prevenzione nei confronti dell'allenatore, comunque oggi era già un esame e il risultato avrebbero colto la palla al balzo. Poteva essere un'occasione. Il fatto che non l'abbiano colta, secondo me, infatti è interessante l'interpretazione di Sacchi, che ha parlato di una decisione che gli fa piacere e che fa onore al Milan, perché insomma è comunque un segno di cultura sportiva, secondo me, oggi aver guardato oltre al risultato. Secondo me qui Allegri ha delle responsabilità, però insomma questa squadra ha fatto dei tagli che ha dovuto fare, perché dopo tanti anni di successi comunque si è trovata un buco di bilancio, e la realtà è molto semplice. Questo, delle volte, sai, la chiarezza è la strada migliore. Cioè, i tifosi del Milan hanno vinto tantissimo in tutti questi anni. Se c'è un tifoso al mondo felice per gli ultimi 25 anni è il tifoso del Milan. Hanno vinto di tutto, ci sono miliardi di tifosi al mondo che non vinceranno mai una Champions League, nemmeno uno scudetto, e adesso c'era da coprire un buco importante di bilancio, e la squadra è stata smantellata. E quindi sono scelte che vanno accettate, l'importante è la chiarezza. Poi troverà un equilibrio, la situazione migliorerà, è ovvio che non è che perderà 3 partite ogni 4, anche perché sennò rischierebbe la retrocessione, però la sostanza tecnica di quest'anno mi sembra un po' quella. Grazie a Pierluigi Pardo. Grazie a voi, ciao. Grazie per Luigi Pardo da Udine. Ci sono Luigi da Milano, Guido da Rimini, che ci hanno chiamato all'800 24 00 24. E allora partiamo con Luigi da Milano. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Prego. Niente, stavo entrando da San Siro, tornando alla sua casa, e ho visto una partita veramente a dir poco deludente. Cioè, io l'anno scorso avevo lasciato l'Inter con una molta delusione. Quest'anno mi è venuto per vedere la prima volta una partita a San Siro ancora più deluso. Cioè, non riesco a capire come è possibile, un'opinione che da voi, che nessuno mi possa parlare a Moratti, al nostro presidente, e dire che c'è gente che non corre in mezzo al campo. Spendo dei grandi milioni di euro, tipo Alvarez, tipo Varin, che si vede lontano un chilometro, che sono tecnicamente forti, ma non hanno la velocità, non corrono in mezzo al campo. Va bene, sì, oggi effettivamente si è visto soprattutto a metà campo un po' poco dinamismo. Grazie intanto a Luigi da Milano. Guido da Rimini, sempre sull'Inter, buon pomeriggio. Pomeriggio, io sono uno juventino, quindi lo premetto, però volevo fare una tirata d'orecchie a Stramaccioni, perché settimana scorsa mi è molto dispiaciuto vedere la reazione che ha avuto a un commento che voleva essere positivo di Mondonico in una trasmissione televisiva. Mondonico, che è un decano che ha perlomeno il doppio della sua esperienza, l'ha paragonato a un Inter trapattoniana, quindi che giocava con l'umiltà di una provinciale, e lui tutto seccato se n'è andato dallo studio. Che non era certo un insulto. No, esatto, anzi, quindi con assoluta buona fede e trasparenza, tutto seccato se n'è andato. Purtroppo forse aveva ragione, aveva sbagliato Mondonico, non ha neanche l'umiltà di una provinciale la sua Inter, forse dovrebbe ricominciare da lì. E niente, semplicemente questa considerazione. Grazie Guido. Grazie Guido. Guido da Rimini, che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Beh, certamente la consistenza di Stramaccioni cominceremo a vederla proprio a partire da questa sera, perché come diceva bene Dario Ricci prima da San Siro, questa sconfitta contro il Siena rappresenta forse la prima vera difficoltà che Stramaccioni incontra nella sua carriera da allenatore, non solo in questa stagione. Per Stramaccioni ci sono con quella di oggi, se non ricordo male, 13 panchine in Serie A, e quindi è davvero soltanto all'inizio. Dovrà trovare in fretta alcune risposte per la sua Inter, oggi battuta dal Siena. Noi ci fermiamo, pubblicità, meteo, poi quando torniamo parliamo del Mondiale di Ciclismo. 800 24 00 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Potete scriverci anche su Twitter, @ tutti convocati, oppure su Facebook, la nostra pagina A Tempo di Sport. Buon pomeriggio, anzi ormai buonasera a Ivan Basso. Buonasera. Ciao Ivan, buonasera. E al nostro Pier Augusto Stagi. Buonasera Pier Augusto. Buonasera e ciao Ivan. Ciao Pier. Allora, è andata tutto come da pronostico, ha vinto il più forte, o meglio quello che era favorito, parliamo del belga Philippe Gilbert. L'Italia è rimasta giù dal podio, però sapevamo che non partevamo con i favori del pronostico. Pier Augusto, è stato davvero tutto così lineare nel mondiale a Valkenburg? Ma sì, abbastanza. Devo dire che è andato tutto in maniera lineare fino a 2 giri dal termine per quanto ci riguarda, diciamo, per la squadra italiana, che secondo me ha corso bene fino a 32 km dal traguardo. E poi si possono fare tanti discorsi. Di sicuro la nostra squadra era una squadra giovane, con 6 esordienti, con un Nibali chiamato a essere capitano unico su un percorso che non gli era proprio calzante, non lo facilitava. Quindi secondo me abbiamo commesso l'errore di esuberanza, volevamo dare un senso ad un mondiale che invece il nostro senso era quello di essere un pochino più opportunisti, visto che eravamo degli outsider, una formazione giovane che non poteva ambire a grandi risultati, dovevamo correre sulle ruote di quelli che erano deputati favoriti. Dovevamo provare forse anche ad approfittare eventualmente di gelosie, di tattiche, di lotte interne alle nazionali che questa corsa avevano il compito di governarla sin dall'inizio. Ivan Basso, ha vinto il migliore? Ma sicuramente ha vinto l'atleta che ha già dimostrato più volte di essere un grande campione nelle corse di un giorno, e credo che non ci sia nulla da stupirsi che oggi Gilberta abbia vinto questo campionato del mondo. Io credo che è stata, condivido pienamente l'analisi che ha fatto Piero Augusto, è stata una bellissima Italia. Poi nel finale è chiaro che si può discutere per giornate intere, ma è difficile anche interpretare poi una situazione in due giri, cercare di capire qual è la cosa più giusta da fare, perché ci hanno provato e non è andata bene. Se non ci provavano, probabilmente tutti avrebbero detto non hanno provato a far infiammare la corsa. Io credo che bisogna accettare che è più forte e basta, appunto. Sì, ci ha provato Nibali con un attacco sull'ultima salita del Kauberg, non aveva forse le gambe a quel punto, Ivan? Ma io non ho parlato chiaramente con Vincenzo, però da atleta io posso così capire anche che uno non sa esattamente quello che può essere l'effetto di un attacco, non sa, io credo che Vincenzo ha provato perché quello aveva nelle gambe ed era giusto provarci. Poi alla fine non sai mai quando attacchi gli altri quanto ne hanno più di te o meno di te, quindi io penso che bisogna così vedere il mondiale nel modo giusto. L'Italia ha corso bene fino alla fine, nel finale hanno fatto una strategia all'attacco, hanno preso di petto la situazione e bisogna accettare questo. Poi ha vinto Gilbert, che oggi è stato il più forte di tutti, ma non è una novità. Pier Augusto, possiamo dare una sufficienza larga alla nazionale di Bettini? Lo abbiamo sentito dire prima che è stato fatto tutto quello che poteva e doveva essere fatto. Ma ti dico, io darei una sufficienza larga, anche un 7 fino a 32 km dal traguardo. Poi gli ultimi due giri, ha ragione Ivan che dice sai solo quello che hai nelle gambe una volta che sei scattato, questo è chiaro, bisogna andare al vedo e ci vai anche tu. Un atleta va al vedo solo nel momento in cui opera lo scatto, la progressione, e poi si accorge magari di avere crampi o di non avere quelle energie che sperava di avere. Però, ripeto, sapendo che Gilbert era il favorito numero uno, Boissonaghen, Valverde, Degenkolb, Thomas Vauclair, erano veramente tutti nomi assolutamente annunciati e segnati col cerchiolino rosso, un pochino più di cinismo l'avrei preteso, e soprattutto nelle fasi conclusive, per cercare di portare Oscar Gatto e lo stesso Luca Paolini, che è uno dei grandi uomini di esperienza di questa nazionale di Paolo Bettini, che però dispone anche di un buono spunto, di una buona progressione. E invece abbiamo voluto prendere di petto il muro del Kauberg e vabbè, siamo rimbalzati indietro. Quindi io direi che alla fine darei dal 5 al 6 nel complesso, fino a 32 km dal traguardo un 7 pieno, ma il finale mi lascia con l'amaro in bocca, ma non perché poi ha vinto Gilbert, anzi, quando vincono i grandi campioni va bene, va benissimo assolutamente, però noi potevamo correre un pochino con un pochino più di prudenza e di cinismo, soprattutto perché soprattutto in questo finale. Esatto, non eravamo i favoriti e ci mancava il bomber, detto come va detto, perché anche Vincenzo ha una scusante, non era un percorso, non è uno scattista, e su quel percorso, Ivan lo sa bene, perché su quel percorso celebriamolo, perché oggi abbiamo celebrato i 30 anni dello scatto di Goodwin, ma su questo traguardo Ivan è diventato campione del mondo Under 23. 1998. Dico bene, Ivan? Sì, ma altra storia. Da Under 23 è tutta un'altra musica. Io, come ripeto, io non mi sento di criticare la squadra come si è mossa nel finale, assolutamente, perché alla fine io credo che non è quell'azione che hanno fatto non ha cambiato di molto, se non la veniva fatta in Italia, veniva fatta dal Belgio e Gilbert sarebbe scattato comunque, o se non scattava lui poteva vincere Bonen in volata. Quindi io credo che bisogna anche dare la sconfitta e premiare un'Italia combattiva che ci ha provato. Poi siamo sempre qua, io molto spesso da atleta mi trovo in questa situazione. È sempre molto semplice fare la strategia dopo la gara o il giorno successivo, no? Io credo che bisogna molto spesso guardare di più anche così nell'atteggiamento giusto e accettare quando un atleta è stato più forte, punto. Questa è la mia opinione sulla corsa di oggi. Cosa mi dite di Contador, che a un certo punto è andato all'attacco, sembrava voler fare lui la gara, poi si è perso, Ivan e poi Pier Augusto? Ma credo che Alberto, non conosco esattamente la strategia della Spagna, che aveva uno squadrone al via e alla fine anche loro si sono un po' disuniti e hanno colto solo un terzo posto, solo tra virgolette. Alberto penso che lui voleva provare da lontano perché avevano comunque altre pedine importanti in gruppo come Rodriguez e come Valverde per il finale e Freire in caso di arrivo in volata, quindi erano coperti per ogni tipo di situazione. Credo che era il primo che doveva muoversi, però non conoscendo bene la strategia della Spagna È difficile giudicare, dare un giudizio ad un'azione di questo tipo. Pier Augusto su Contador. Ma Alberto ha corso al servizio della squadra, doveva sdebitarsi con qualche spagnolo, farsi anche un po' perdonare, e è entrato nella fuga importante al momento giusto, opportuno, dove noi ne avevamo anche quattro con Nocentini, Diego Lissi. È stata un'azione importante, c'era dentro anche Thomas Voeckler, ha condizionato questo campionato mondiale, è stato un po' lo specchietto per la Lodo, tanto è vero che poi nel finale l'avete visto, Contador si è messa anche in testa a tirare, quindi si è messa totalmente a disposizione delle furie rosse, che poi in realtà sono stati messi nel sacco da un corridore che è stato di gran lunga il più forte, perché oggi ha fatto, Philippe Gilbert ha fatto veramente un'azione da fuori classe assoluto, e non ci sorprende perché di quelle azioni ne abbiamo sotto gli occhi, davanti agli occhi, tante. Perché proprio era predestinato oggi Philippe Gilbert. E soprattutto su quel traguardo, perché l'anno scorso aveva vinto l'Amstel Gold Race con una progressione, uno scatto molto molto simile a quello di oggi, anzi forse quello di oggi è stato ancora più impietoso, travolgente, perché Gilbert probabilmente aveva una rabbia interiore grandissima, perché la sua stagione è stata molto molto difficile, aveva cambiato squadra, è uno dei corridori più pagati al mondo, molta pressione, aveva bisogno di lasciare il segno, perché invece era riuscito a cogliere proprio, rischiava di chiudere la stagione senza l'acuto che un fuoriclasse come lui merita di avere e di mostrare. Sì, esattamente, quindi era proprio in debito, no? Anche nei confronti del suo team, che ha investito tanto su di lui, aveva ottenuto quelle due vittorie importanti al Giro di Spagna, dando quindi dei segnali chiari e inequivocabili della sua condizione, che stava migliorando di giorno in giorno, e si è presentato a puntino per forse l'ultimo appuntamento vero di stagione, cioè l'ultima vittoria autentica che poteva dare un senso a tutto il suo 2012. Adesso, con la maglia di campione del mondo sulle spalle, potrà veramente divertirsi a concludere questa stagione con Milano-Torino, Giro di Lombardia. Perché il programma è ancora ricco. Grazie Pier Augusto Stagi. Grazie a voi, buona serata, ciao Ivan. E grazie anche a Ivan Basso, ciao Ivan, grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti. Allora, questo è il nostro racconto di quello che è successo oggi a Falkenburg per il Mondiale di Ciclismo. Adesso spazio agli amici da casa che hanno chiamato all'800 24 00 24 partendo da Marco da Udine. Sì, Marco, buon pomeriggio. Grazie intanto per la richiamata. Volevo un attimino fare i complimenti nonostante tutto ad Allegri, perché con 8 giocatori in campo è riuscito a tenere testa un Udinese ben poco agguerrito. A lei è piaciuto il Milan? No, non mi è piaciuto, però nella partita c'è stato, diciamo, qualche cosa in più rispetto a quello dell'Udinese. Però nello stesso tempo volevo riallacciarmi al discorso di quel tifoso che vi ha dato di partigiani prima. Sì, il tifoso laziale. In effetti ha ragione al 100%, perché voi parlate al 90% di 3 squadre. Milan, Inter e Juventus. Delle altre 18. Certo. Sì. Ma funziona un po' così ovunque. La Gazzetta ecco. Dello Sport abbiamo 5 pagine per la Juve, 4 per il Milan, 3 per l'Inter e una pagina per tutte le altre 18. Non mi sembra tanto bello, insomma. Però è la legge dell'informazione, purtroppo della comunicazione, che si deve rivolgere a delle platee di milioni di tifosi. Inter, Milan e Juventus più o meno insieme fanno circa l'80% dei tifosi italiani, e quindi così siamo anche costretti a fare. Però ad esempio la sua Udinese di spazio ne ha avuto in queste settimane, quando si è trovata a rappresentare i nostri colori nei preliminari di Champions League. Grazie comunque a Marco da Udine. Chiedo un istante di pazienza a Gianni da Taranto e a Sandro da Roma. Ci fermiamo per il traffico. 800 24 00 per 24 per le vostre telefonate, 349 238 6666 per i vostri messaggi. Gianni da Taranto, buon pomeriggio. Salve, buon pomeriggio. Volevo dire solamente una cosa, che comunque Stramaccioni non ha la caratura giusta per allenare l'Inter, perché comunque dopo aver perso col Siena in casa non può fare quelle dichiarazioni, abbiamo giocato bene o roba di questo e cosa genere. Doveva dire secondo lei, Gianni? Secondo me al posto suo tipo Mourinho avrebbe spaccato lo spogliatoio, perché una squadra come l'Inter non può perdere in casa col Siena. Quindi c'è una carenza ancora di carattere per Stramaccioni. Noi lo abbiamo ricordato, è alla 13ª panchina in Serie A, e vorrà pur dire qualcosa, un po' di esperienza, forse anche nella gestione. Mi riallaccio a quello che ha detto prima della pubblicità un altro ascoltatore, dei momenti di tensione a livello comunicativo, come quello di settimana scorsa con Mondonico, che gli ha provocato più di un'antipatia, quella lite con Mondonico in onda. Mondonico che aveva detto che l'Inter che aveva vinto a Torino era stata molto provinciale e trapattoniana. Stefano da Bari, buon pomeriggio. Sì, buonasera a tutti. Prego. Io mi volevo ricollegare alla telefonata del signore da Roma e successivamente a quella del signore da Udine riguardo. Siamo partigiani. No, io non dico che voi siete partigiani, purtroppo sono partigiani tutti, cioè io mi rendo conto delle motivazioni per cui parlate sempre di 3 squadre e ne prendo atto, ma forse è meglio così, meno si parla di squadre come la Lazio, da un certo punto di vista meglio è. E per quanto riguarda invece l'intervista a Mimmo Di Carlo, mi dispiace che sia andato via, perché io avrei voluto chiedere che partita ha visto. Io ero allo stadio domenica scorsa a Verona, sarà stato l'orario di pranzo, che lui probabilmente si è preso un abbiocco, però l'unico tiro in porta degno di nota è stato quello di Michele, su un regalo di Dia, su un rinvio. Per il resto grosse cose io sinceramente non ne ho viste. Sì, certamente la Lazio a Verona domenica scorsa ha fatto una grandissima impressione. Io credo abbia lanciato anche un segnale positivo. Io mi permetto semmai di sottolineare che il rischio di questa squadra è che sia bellissima e corra fino a febbraio-marzo e poi possa in un certo senso consumarsi per mancanza di alternative, Stefano. Cioè ha la rosa un po' corta. Mi permetta di dire che i bilanci vanno fatti perlomeno a fine girone d'andata. Ah, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Ho fatto partite presto, non c'è niente da dire. Va bene. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie, Stefano. Allora, Sandro da Roma. Sì, buonasera. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Io volevo parlare un attimo della Juventus. Spero che non sia una colpa, visto il tenore delle precedenti telefonate. Ci proveremo. Io sono andato a vedere ieri la Juventus a Torino e un giocatore mi ha impressionato, e su questo vorrei un suo commento. Parlo di Leonardo Bonucci, che è passato da essere un pasticcione 2 anni fa, con la gestione del Neri faceva solo danni, ma invece da 2 anni a questa parte, e soprattutto l'anno scorso e quest'anno, veramente sta gestendo benissimo la difesa, riesce a difendere benissimo e soprattutto a impostare altrettanto bene. Vorrei un suo commento su questo. Guardi, a me Bonucci ieri non è piaciuto tantissimo, ma perché in assenza di Pirlo Molte volte l'azione della Juventus è partita dai suoi piedi e si è visto qualche lancio in avanti di troppo. Sulla prestazione in generale in questa stagione, ma non solo, di Bonucci, io le cito solo un dato. Bonucci insieme a Marchisio è l'unico giocatore cui Conte e Carrera fino a questo momento non hanno mai rinunciato, neanche per un minuto. Sono stati in campo sempre, in campionato, sempre in Supercoppa, sempre in Champions League. Insieme a loro c'era fino a ieri sera Pirlo e c'era anche Barzagli, che hanno avuto un turno di riposo. Io direi che, al di là del mio giudizio, è il giudizio di Conte, che non fa mai a meno di Bonucci, a certificare la crescita di questo giocatore, che ha avuto un passaggio certamente difficile nel suo approdo alla Juventus, ma adesso si è ripreso. Mi ricorda, ma Ranocchia deve fare ancora il salto di qualità, quella che potrebbe essere la parabola del suo compagno di difesa al Bari, cioè di Ranocchia, che all'Inter ha avuto dei momenti di difficoltà. Ora Stramaccioni sta provando a rilanciarlo. Bisognerà vedere se Ranocchia sarà capace di fare il percorso che ha fatto Bonucci. Luca D'Arieti, buon pomeriggio. Salve, salve. Prego. Volevo parlare della partita Roma-Cagliari, della sospensione del rinvio. Si parla di 3-0 a tavolino, non mi sembra un po' penalizzante, non tanto per il Cagliari, ma quanto per le squadre che potrebbero trovarsi fra qualche giornata a competere con la Roma per alcuni traguardi o per alcuni obiettivi? Non potrebbe essere più giusto una penalizzazione per il Cagliari e rigiocare la partita? E però vede Luca, io adesso ho preso l'articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva, che al comma 1 recita, parole testuali: la società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3. Ora è oggettivo che l'invito di ieri sera di Cellino ai tifosi del Cagliari a disubbidire alla scelta del prefetto di giocare Cagliari-Roma a porte chiuse di fatto abbia obbligato il prefetto a cancellare questa partita. È un po' quello che dice il direttore generale della Roma, Baldini. Devo dire che mi trovo assolutamente d'accordo in questo caso con la posizione della Roma. È un peccato per la regolarità del campionato, ha ragione, però è anche vero che le regole, se ci sono, vanno fatte rispettare. E allora, a proposito di Cagliari-Roma, che è la pagina nera del nostro calcio, noi vi facciamo risentire l'intervento in diretta del presidente della Lega Calcio Beretta qui a Tempo di Sport un'oretta fa. Ma insomma, diciamo, certo il comunicato di ieri sera della società appare incomprensibile, è un, come dire, e certamente non fa bene alla, diciamo, all'immagine del calcio. Peraltro, ripeto, dispiace perché viene dopo una settimana di lavoro molto molto collaborativo tra la Lega, l'Osservatorio per la sicurezza negli stadi, il prefetto di Cagliari e la stessa società, per trovare una soluzione che contemperasse, diciamo, le esigenze, che sono sempre assolutamente per noi un punto di riferimento fondamentale, della sicurezza, e l'esigenza di non far spostare la squadra al campo di Trieste. Era stata, ripeto, trovata una soluzione grazie a questo, ripeto, impegno che ha coinvolto la Lega Calcio, l'Osservatorio e il prefetto della società per quasi tutta la settimana, e quindi, diciamo, siamo stati molto sorpresi. Domenica c'è Cagliari-Pescara, siamo davanti a una settimana in cui si discuterà molto. Esiste anche l'ipotesi che a questo punto il Cagliari possa essere in qualche modo forzato ad andare a giocare a Trieste. Guardi, io ripeto, devo dire che ho riscontrato, e di questo lo ringrazio molto, da parte del prefetto e delle autorità di Cagliari un grande impegno per cercare di risolvere problemi che sono oggettivamente complessi, e io non escluderei che si possa, come dire, fare un lavoro per, come quello che, diciamo, comunque è stato impostato. Vediamo a che cosa si può arrivare. Certo serve, come dire, grande collaborazione, grande impegno reciproco di tutti i, diciamo, di tutte le parti in gioco per arrivare, ripeto, ad una decisione, magari anche, anche parzialmente, però debba tenere conto innanzitutto della sicurezza di tutti, a cominciare da quella dei tifosi e degli spettatori, e anche delle aspettative dei tifosi cagliaritani. È tutto, Giorgio De Luca in redazione, Valeria Bernardi, Roberto Scaltritti in regia. Un saluto da Giovanni Capuano, lo sport torna domani alle 14 con tutti i convocati.